si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. E buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati dalle 18 sino alle 20:30, anzi stasera sino alle 21 staremo insieme e sentiremo anche le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Cominciate subito a prenotare i vostri interventi, se invece volete interagire in tempo reale con noi l'account Twitter del programma, ve lo ricordo, è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Non c'è Carlo Gabardini, impegnato nelle prove del suo spettacolo che debutterà l'11 gennaio, tra poco lo sentiremo. 800 24 00 24, invece ci sono in redazione Isotta Scenna e Riccardo Buccero e in regia Pietro La Corte. Andiamo ad iniziare. Serie di concerti e di eventi che mettono quest'anno a maggior ragione, insomma, dopo tanti anni continuativi, anche quest'anno Firenze al centro veramente della, diciamo, del capodanno d'Italia. E questi era Max Pezzali, ieri alla presentazione del concerto di stasera a Firenze che lo vedrà protagonista, e poco prima o poco dopo aver detto queste parole, alla domanda di un giornalista: dedicheresti oggi questa canzone qua che stiamo sentendo, Sei un mito, al sindaco di Firenze, astro nascente della politica italiana, Matteo Renzi? La risposta di Max Pezzali è stata sì. Pezzali, che ha definito poi un Renzi un letteralmente una leggenda vivente. Il sostegno di Max Pezzali, cantante insomma non affiliabile alla schiera dei cantautori italiani di sinistra, anzi assolutamente no, a Renzi, ha fatto notizia oggi sul Libero. Che delusione, era un mito. Max sale sul carro del segretario. Insomma, per Max Pezzali, che è stato, come ci ricorda Libero, l'anti cantautore di sinistra, anzi semmai accusato di essere cripto berlusconiano, insomma di tutt'altra scuola, adesso cambia verso anche lui. L'ultimo è solo l'ultimo endorsement dell'anno a favore di Renzi, sono convertiti tutti, e la scommessa di Renzi sicuramente per il 2014 sarà quella di riuscire a tenere insieme, da, che ne so, Maurizio Landini, segretario della FIOM, che appunto recentemente ha espresso manifestazioni di simpatia quantomeno nei confronti di Renzi, a Max Pezzali. Insomma, la strada è lunga. Tra l'altro bisogna anche vedere se questo sostegno, questo ultimo appoggio di Max Pezzali a Renzi porterà fortuna a Renzi, perché insomma i più puri della sinistra potrebbero storcere il naso e vedere anche in questo impercettibile fatto un, come dire, il fatto che Renzi non è di sinistra, insomma, perché da Guccini a De Andrea a Max Pezzali ce ne corre in effetti di distanza. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare, perché avete sentito Pezzali, risentiamolo un attimo, risentiamolo un secondo, il momento di autoesaltazione, definire quello di Firenze il vero concerto di fine d'anno, sentiamo. È bello far parte di una, così, di una serie di concerti e di eventi che mettono quest'anno a maggior ragione, insomma, dopo tanti anni continuativi, anche quest'anno Firenze al centro veramente della, diciamo, del capodanno d'Italia. Firenze al centro, e poi ridacchia veramente come se anche lui non fosse convinto di quello che sta dicendo. Diciamo la verità, Max Pezzali non è tipo da dichiarazioni politiche, da endorsement, da dichiarazioni così di alto livello, perché poi gli vengono male. In effetti è giusto ricordare anche gli altri concerti questa sera, tra poche ore, nelle piazze italiane. A Roma, per esempio, al Circo Massimo, Malika Ayane, Nina Zilli, Nicolò Fabi e Daniele Silvestri. A Milano, a Piazza Duomo, ci sarà il ristorante Tese, ma anche in Motel Connection. A Rimini, tanto per dirne un'altra, c'è il concerto di fine d'anno in stile X Factor con Marco Mengoni e Mario Biondi. A Firenze, appunto, l'abbiamo detto, Max Pezzali. A Palermo, Max Gazzè. E invece a Verona canterà Enrico Ruggeri. Così abbiamo fatto contenti un po' tutte le città, le principali città italiane dove si festeggia, è una bella tradizione da qualche anno a questa parte, il Capodanno in piazza. C'è anche Berlusconi, però sentiamolo un pezzettino. Berlusconi che è intervenuto telefonicamente ad un raduno di un club, credo, di Forza Italia, ma la raccolta di adesioni per il club Forza Silvio sta andando malino. Sentiamo. Andando avanti così siamo un povero paese che non ha la possibilità di essere governato, perché come vedete questo assetto istituzionale è fatto per vietare e non per consentire le decisioni. 800 24 00 24. Però questa sera, cari ascoltatori, io rinnovo l'appello che abbiamo già fatto ieri, ma andrà avanti per tutta la settimana. Oggi poi è un giorno davvero speciale, non possiamo esimerci. Tutti fanno il bilancio di fine d'anno, i fatti più importanti, i morti, per esempio il 2013. No, evitiamo questo e in spirito col programma noi vi abbiamo chiesto intanto la bella notizia che vi portate dietro dal 2013 al 2014. Un anno sicuramente negativo, c'è la crisi economica che va avanti, la politica che non ci dà grosse soddisfazioni, insomma la disoccupazione ancora a livelli record, il dato di ieri 7 milioni di italiani in condizioni di povertà. Che fare? Cerchiamo di guardare le cose con ottimismo e portiamoci dietro una bella notizia dal 2013. Io ieri ho fatto degli esempi, per esempio, non so, le curve degli stadi chiuse per razzismo, potrebbe essere, secondo alcuni lo è, altri parlano di una cosa poco efficace, una buona notizia, l'elezione di Papa Francesco, il Papa che sta rivoluzionando la Chiesa che torna ad essere la Chiesa dei poveri. Oppure un'altra cosa che a me ha colpito è stata l'unanimità mondiale quando ci sono stati i funerali di Nelson Mandela, un segno di pace nel mondo. Metteteci dentro quello che volete, 800 24 00 24 e poi tra poco ve le rileggeremo. E i buoni propositi sono già arrivati molti ieri degli ascoltatori per l'anno prossimo. Maurizio d'Alessandria per esempio ci dice che ha un'azienda che importa sistemi per l'efficienza energetica e il suo buon proponimento per l'anno prossimo è assumere un collaboratore, un progettista, e questo sì che è un buon proponimento, speriamo. Poi insomma abbiamo avuto per esempio straordinario Alberto da Modena, un signore in pensione da alcuni anni che ha un cruccio e quest'anno se lo vuole togliere. Vorrebbe passare a qualcuno le sue attività, una ex officina per autocarri, e i suoi terreni agricoli inutilizzati, soltanto a qualcuno che si faccia vivo per portare avanti queste attività, quindi un'occasione anche questa di lavoro. Se non ricordo male era San Prospero, dalle parti di Modena. 800 24 00 24. Adesso però diamo la buona sera a Giancarlo Galan, deputato di Forza Italia. Sera. Buonasera, buonasera. Uno di quelli che stasera ha detto non ascolterà il discorso di Napolitano, è vero? Così? Ma per dire la verità non l'ho ascoltato quasi mai. Il discorso di fine anno dei Presidenti della Repubblica. Tra l'altro sono più di 20 anni che mi sorbisco Presidente della Repubblica di sinistra, eletti dalla sinistra, Ciampi... che nominano giudici costituzionali di sinistra, che nominano senatori a vita di sinistra, e così mi difendo. Anche Cossiga era di sinistra, Cossiga era prima dei 21 anni, ma non ha... È vero. Io ricordo Scalfaro, Ciampi, che è stato il migliore, Napolitano, che non è più il migliore da un po' di tempo. Quindi mi difendo nell'unico modo, cambio canale. Ma io credo che la maggior parte degli italiani facciano così, tengono acceso, poi magari non lo ascoltano. Questa però in realtà è un po' una polemica che c'è su boicottare il discorso, c'è anche un'iniziativa di un suo collega di Forza Italia, ne parliamo tra un attimo, tra l'altro dopo il traffico, perché invece la prima cosa che le vorrei chiedere è... oggi c'è un'intervista su Repubblica nella quale lei dice in effetti la raccolta di adesioni per il club Forza Silvio non sta andando come speravamo. Adesso ci racconta tutto. Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, più avanti adesso in compagnia di Giancarlo Galan, deputato di Forza Italia. Un'intervista oggi su Repubblica, dicevamo, lei dice in effetti l'operazione dei circoli, un po' come era stato fatto nel 94, non sta andando come speravamo. Quanti club avete fatto fino ad ora? Intanto c'è da dire che sono quasi 7.000, quindi un numero altissimo. Perché io non sono soddisfatto fino in fondo? È perché speravo ce ne fossero di più. Noi li abbiamo burocratizzati un pelo troppo, occorrono 5 iscritti a Forza Italia e l'esigenza anche di controllare bene la situazione, di avere un minimo di conoscenza di chi partecipa, ci ha un po' tolto quell'entusiasmo che nel 94 invece aveva portato a un numero superiore. Fatti i rapporti col 94, noi dovremmo averne 10.000, ne abbiamo 7.000, ma vanno a trovare un partito che in pochi giorni tira su 7.000 però, club, quindi bene, ma insomma deve essere ancora meno burocratico, si può fare di più. Ma a parte questa cosa di, cioè dei circoli che aderire ai quali è troppo complesso e burocratico, è un po' un paradosso, no Galan? Cioè voi che siete il partito teoricamente, perché poi in questi anni è andata come è andata, lei stesso è uno di quelli che ha detto abbiamo stato, questa rivoluzione liberale non è andata sempre a segno, altrimenti non saremmo nelle condizioni in cui siamo, l'Italia dico, però Forza Italia che fa i circoli troppo burocratici è contraddittorio. Quella che io chiamo burocrazia, tutto sommato, significa digitare su internet un modulo, avere le indicazioni e compilarlo. Ecco, non è che sia una grandissima. Bisogna fare burocrazia, l'associazione. Però è già un qualcosa che insomma. Qualcuno lo fa e dice boh, aspetta, è un po' più complicato di quello che prevedevo, aspetta che lo faccio la settimana prossima. Ma non è che si è esaurita un po' la, perché questi sono sono club Forza Silvio, quindi si è esaurito un po', un po', come no, sono passati 20 anni, io mi sono esaudito e come anche e così anche credo un po' gli altri deputati. Ecco, se viene affidato il compito primario, la sorveglianza iniziale ai deputati, siamo lei ha ammesso una certa stanchezza in questo, devo dire che Galan è una persona che gioca trasparente, straordinario, perché dice sempre, credo almeno, quello che pensa, o quantomeno molto di quello che pensa. Ma io volevo dire, non è che si è esaurito proprio anche il brand Forza Silvio? No, quello non si è esaurito, perché altrimenti non ci sarebbero 7.000 club in giro. No, quello io credo persino che per certi versi sia aumentato nel senso che chi lo ama sente che ha bisogno del nostro aiuto proprio in questo momento, ed è ovvio che io sia fra quelli. Forse però ecco, è questo forse il messaggio, di averlo debellato, ma ha un po' di delusione perché non c'è riuscito. Però è forse quello che proprio nelle sue parole, Galan, cioè in questo momento Silvio ha bisogno di noi, quindi il club sembra che nascano quasi con questo spirito, stare vicini a Silvio. Nel 94 i club di Forza Italia nascevano per migliorare l'Italia, non c'è un po' anche questo messaggio che non ha la forza di trascinare, ma sembra quasi che voi chiediate di essere trascinati. Ma guarda, sono tutte e due le cose, un po' è cioè, sempre chi agisce, chi fa politica, se la fa con la P maiuscola, se la fa credendoci, la fa per migliorare il suo paese, no? Quindi questo è un sentimento che ci accomuna noi del 94 con quelli che nel 94 addirittura magari non erano neanche nati o avevano pochi anni, quindi questo ci accomuna. Oggi c'è più bisogno di dare una mano, perché per il nostro paese è l'ultima partita da giocare. D'altra parte io penso anche un'altra cosa, però nel 94 noi eravamo un po' rassegnati quasi, pensavamo che contro la gioiosa, come si diceva, figuriamoci che gioioso, macchina da guerra di Occhetto e del PDS o PC, non mi ricordo, forse già si chiamava PDS, allora non ci fosse nulla da fare. E invece l'entusiasmo ci ha trascinati a una vittoria francamente storica. Oggi sono passati 20 anni e paradossalmente siamo in condizioni migliori, cioè eravamo più pessimisti sul futuro, sull'esito delle elezioni nel dicembre Beh, certo, adesso partite da un capitale notevole che allora quindi, non c'era, evidente. Ma senta, ma questa... forse questo gioca con una emozione, emotività più forte allora che adesso. Ma insomma, oggi sappiamo che è l'ultima partita, abbiamo visto quello che è successo, come è stato eliminato il capo di un grande partito con milioni di seguaci, e quindi c'è un velo magari di tristezza, ma anche di voglia di reagire. Senta, a proposito però di rinnovamento, questa operazione dei circoli di Forza Silvio è stata affidata a Marcello Fiori. Chi è Marcello Fiori? Un volto nuovo? Questo è proprio bello. Marcello Fiori è un uomo che si è distinto, che ha fatto benissimo nella protezione civile. Con Bertolaso. Il fatto che non si sappia chi sia, per me è un grande vantaggio. D'altra parte, quando noi fummo nominati nelle varie regioni per fondare il Forza Italia nel 94, non ci conosceva nessuno. Non è che dopo fossero tutti eccelsi, però abbiamo fatto bene, no? Allora. E quindi avere il coraggio di investire su chi è giovane, chi è nuovo, chi non ha nessun tipo di coinvolgimento alle spalle, chi è quindi assolutamente libero di fare qualcosa di nuovo, è una bella cosa, una grande giocata. Il ministro degli esteri dell'Austria, non di un paesino, il ministro degli esteri dell'Austria ha 27 anni. Chi lo conosce? Boh, sono investimenti, non vanno sempre benissimo, ma io credo che Fiori farà benissimo. Spero, glielo auguro. Senta, ma è vero che Berlusconi su questo spinge molto e sta ancora cercando, scrivono così i giornali, l'anti-Renzi, insomma anche lei ha detto sto facendo un po' il talent scout per trovare volti nuovi e adesso stanno salendo le quotazioni di Toti? Non so, Toti è un'altra persona, io lo conosco poco, quindi non posso esprimere giudizi, no, certo lo conosco, l'ho incontrato e mi ha fatto un'ottima impressione. Anche lui si investe su qualcosa di nuovo e vedremo. In fondo io credo che il problema non sia quello di individuare un leader da contrapporre a Renzi, ammesso che Renzi e non Letta siano i candidati della sinistra, sia il candidato della sinistra alle prossime elezioni, perché questo ancora non è stabilito, quindi lo vedremo. Io credo che l'importante sia suscitare entusiasmo, trovare persone nuove, soprattutto avere una linea politica precisa fondata sui nostri principi, che sono quelli liberali. Un volto nuovo è anche quello di Giuseppe Moles, che è appunto il parlamentare, suo collega, che ha dato il via a questa iniziativa. Il 31 dicembre spegni il presidente e manda in onda il tricolore. Lui ha scritto un documento, insomma dice se la prende contro le esternazioni del capo dello Stato che appaiono, io leggo così giusto per spiegare, sempre più come il segno dell'abbandono del suo ruolo istituzionale di garanzia per porsi invece come paladino e tutore della sopravvivenza delle istanze di una maggioranza e di un governo non scelti dai cittadini. Ora, mi è piaciuto di più Legalan quando prima ha detto sono 20 anni che devo ascoltare discorsi dei presidenti della Repubblica di sinistra e su questo è difficile darle torto. Però Galan, invece il discorso di Moles non torna, perché il governo lo avete voluto anche voi e Napolitano lo avete eletto convintamente il 20 aprile anche voi, no? Adesso cos'è cambiato? Convintamente, quando l'alternativa si chiama Prodi, uno si convince, fa una polmonite e una influenza, uno sceglie voglio l'influenza e noi l'abbiamo presa convintamente. Però non sembrava proprio che Napolitano fosse l'influenza, sembrava che fosse salutato con grande favore da parte vostra. Io non ho mai avuto questo grande favore, non ce l'ho per motivi storici, non per... Era solo tattica politica. Si fa quello che si può con i numeri che si hanno. Una legge elettorale come questa ha favorito per 143.000 voti di differenza, ha permesso alla sinistra di eleggere alla Camera 160 deputati in più. Quindi si gioca con i numeri che si hanno, è meglio di quella soluzione. Però scusi, Galan, questa legge elettorale l'avete voluta voi, adesso non ci dica che è colpa della legge elettorale. Legge elettorale l'avete fatta voi. È stata nella regione toscana. Dove sì, ma l'avete, a livello nazionale l'avete fatta voi, l'avete approvata noi voi. Noi l'abbiamo applicata con... Non mi dica così, perché sennò non... No, ma è un po' sconcertante sentir dire così. Noi abbiamo mutuato una legge inventata. Come mutuato? Avete voluto, avete approvato, Calderoli è stato relatore, l'avete provata, l'avete voluta. Per... Ma l'abbiamo copiata da quella della Toscana. Sì, ma l'avete votata prima delle elezioni politiche per evitare che Prodi vincesse le elezioni, no? Cosa si fa sempre questo errore in Italia? L'abbiamo fatto anche noi, si cerca la legge elettorale più conveniente per chi è in maggioranza in quel momento. Ma è stato un errore, quindi lei dice. Che funziona meglio per un paese. Sì, sì, lo dico apertamente, è un errore. Questa legge è oscena e è tornata contro in questa occasione. Quindi nel 92 la Democrazia Cristiana inventò i collegi uninominali. Sì. Perché era convinta con quel sistema di riuscire a poter vincere le elezioni. Ognuno si ricorda come andò la disfatta più totale, la scomparsa addirittura di quel partito. Ecco, sarebbe l'ora che si scegliesse la legge elettorale più conveniente per il paese e non per quel partito che in quel momento ha la maggioranza. Io credo che nel mondo la legge elettorale che ha dato miglior prova di sé siano i collegi uninominali, piccoli, inglesi, il sistema anglosassone, sì, maggioritario, quindi con un bipolarismo di conseguenza, collegi piccoli con la scelta diretta degli elettori senza le perversioni a cui ci portarono i sistemi delle preferenze. Quindi lei è d'accordo con Renzi che questa sia una priorità? Sì, assolutamente sì, io sì, assolutamente sono d'accordo, dopo ci si può dividere sulle questioni secondarie, non è un motivo di religione, ecco, ma se si comincia ad aderire al sistema di bipolarismo e quindi a una legge maggioritaria, beh, dopo le altre sono inezie sulle quali si può francamente transigere, l'importante è salvaguardare questi due principi, maggioritario e elezione diretta, in modo che la gente conosca chi vota, scelga. Senta Galan, un'ultima cosa, qualche giorno fa sui giornali è uscita che insomma questa curiosa forma di protesta sotto casa sua o che cosa era, una manifestazione, un piccolo presidio di alcuni rappresentanti del movimento dei Forconi, perché proprio sotto casa sua? Loro hanno deciso di farla sotto casa, che non è bello, ma sotto casa dei principali protagonisti della politica del Veneto. Hanno cominciato da me e questo in un certo senso mi non dico mi onora, ma un po'. Ne hanno riconosciuto un ruolo, insomma. anche perché non conto più come una volta, insomma. Ma hanno cominciato da me. Hanno fatto un errore, onestamente. Avessero suonato il campanello, come ho fatto con quelli delle quote latte, li avrei ospitati a mangiare una soppressa e a bere un bicchiere di vino sotto il portico di casa. Farlo al di là del canale, urlando insulti e addirittura arrivando a far preoccupare, a spaventare mia figlia con un muori, muori, ripetuto moltissime volte, questa è stata una caduta di stile, una volgarità che io non perdono. Ma il motivo non è che, perché da quello che si era capito è che sembrava quasi che venissero a chiedere, sono venuti a chiedere ascolto dopo che gli era stato promesso dal suo partito un appunto ascolto, udienza, porteremo avanti le vostre istanze, lo stesso Berlusconi doveva incontrare, li ha mai incontrati poi lui, Silvio? Non lo so, io rispondo per me, molto volentieri. Prima però chiedono pubblicamente scusa di avermi urlato quegli insulti e quell'imperativo, quel verbo muori che ha spaventato mia figlia che ha 6 anni. Certo, questo sì, ma secondo lei comunque le istanze del movimento sono sacrosante. Sono sacrosante, giustificate, giustificabilissime, condivisibilissime. Ma contro chi sono rivolte però? Solo contro il governo Letta o anche contro la classe politica che in questi anni ha governato? Cioè anche lei alla fine è tutto. Sono rivolte contro la politica, quindi come sempre quando si fa una protesta manca la parte della proposta. Ecco, se venissero a casa mia a incontrarmi io direi a loro, li ascolterei e gli chiederei alla fine, e dopo? Perché serve la proposta? Va bene. Se sono pronti a dirle, io l'ascolto molto volentieri, perché chi protesta e lo fa per cose giuste merita come minimo di essere ascoltato. Grazie, grazie a Giancarlo Galan, buona serata e auguri naturalmente, grazie per essere stato con noi il 31 sera. Buon 2014. Anche a lei e a tutta la sua famiglia. 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, tra poco cominciamo subito con i vostri interventi. Salutiamo al telefono Carlo Gabardini, buonasera Carlo. Buonasera Alessio e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ci manchi, vedi, la cosa è reciproca. Ci manchi moltissimo, ci manchi anche perché insomma il telefono non è la stessa cosa e poi sei impegnato nelle prove di uno spettacolo. Ma, volevo chiamare io e fare finta anche di essere un ascoltatore. Facendo una delle tue voci strane che sai fare. Esatto. Prima o poi ce la devi fare anche dal vivo. Carlo, stai preparando uno spettacolo. Accidenti, proprio adesso. Sì, proprio adesso, sì. Perché siamo un po' sotto debutto. Sono qua con Walter Leonardi, che è l'attore che va in scena, sì. Con il quale sto scrivendo questo spettacolo. Devo anche dire quando, forse, che debutta l'11 e il 12 gennaio a Milano al Teatro Leonardo. Beh, ma sabato e domenica devi venire in radio però, Sì, la mattina è radio la sera a vedere lo spettacolo. Tanto io non devo fare niente di scena, io ho semplicemente scritto il testo. Scrivi il testo. Insieme a Walter, che è un attore bravissimo, comico, molto bravo. Ed è anche un mio amico. Ed è l'11 e il 12 gennaio, sono i giorni nei quali ci ritroveremo con Si può fare, versione 7.30, 10 del mattino dal sabato, 8.30, 11 della domenica. Esatto. Nel frattempo tu raccogli un po' di buoni proponimenti, buoni propositi, sai che stiamo chiedendo agli ascoltatori, ieri l'abbiamo fatto insieme, stasera andiamo avanti. Che poi li andremo a cercare durante l'anno nel programma Si può fare, lì tra gli attori dello spettacolo. O c'è solo Walter Leonardi, quindi puoi chiedere solo a lui. Sì, adesso lo chiederò solo a Walter Leonardi, che però in questo momento non è davanti a me. Sì. E poi non so, tra gli tuoi amici, stasera la festa dell'ultimo, il cenone, quello che fai, chiedi, digli di chiamare all'800 24 0024. Tu il tuo buon proponimento ce l'hai già detto ieri. Ne ho tantissimi buoni proponimenti, tantissimi. Uno ce l'ho io. Uno ce l'ho io. Ci devi portare in radio tua mamma prima o poi, perché dobbiamo conoscerla. O quantomeno al telefono. Più bello. Perché sta diventando un personaggio importante, mitico quasi, mitologico. Guarda, me lo chiedono anche su Twitter tantissimo, che vogliono assolutamente mia mamma su Twitter. Però forse è più bello. Direi che il battesimo invece sarà Radio 24. Mi sembra molto straordinario. Bello. Carlo, auguri. Auguri tantissimi a te, a tutti, alla regia, a tutti e soprattutto ai nostri ascoltatori. Anzi, chi ci ascolta in podcast, ecco, mi raccomando, punto, l'abbiamo detto anche adesso. Perché quelli ti ascolteranno che è già il primo gennaio, quindi è perfetto. Gli auguri vanno moltissimo a loro. Grazie ancora, buona serata, a presto. Grazie a te, auguri. Tantissimo, un abbraccio. Ciao. Ciao Carlo. Ciao, ciao, ciao. Ecco Carlo Gabardini, ci ritroveremo da sabato 11 gennaio, domenica 12 gennaio, il prossimo weekend ci saranno delle puntate registrate con il meglio di... Adesso cominciamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori, iniziamo con Lorenzo che ci chiama da Palermo, buonasera. Buonasera. Se può abbassare la radio, così non sentiamo il ritorno, grazie. Perfetto, Lorenzo. Ho la viva voce, tolgo la viva voce un attimo. Sì, tolga la viva voce che ci disturba la qualità dell'audio. Lorenzo, va bene. Eccolo, perfetto, prego. Mi dispiace che non è andato già via l'onorevole Galan. Sì. Perché non capisco, innanzitutto non sono approfondito sul curriculum politico dell'onorevole Galan, non so se è stato mai al governo e se ha giurato fedeltà alla Repubblica. Sì, sì. Di un ecco, perfettamente. Allora io dico, che senso ha dire non ascolto il discorso del presidente Napolitano perché è di sinistra? È un discorso vecchio, io stimo Galan. Vabbè, un discorso però... vecchio, però è un discorso che può essere legittimo o no? Lui adesso non ha incarichi istituzionali. Mi scusi, se tu giuri fedeltà alla Repubblica e fai parte di un governo, rispetti un uomo e quindi di sinistra, giusto? Quindi se no non vai al governo e non firmi e non giuri. È giusto distinguere tra la persona e la carica istituzionale, però non è che quando uno giura da ministro, cosa che Galan ha fatto a suo tempo, deve dire... Mi scusi se la interrompo, sì. Non la distingo. L'uomo e carica istituzionale sono in simbiosi, non riesco a distinguere. Però non c'è un obbligo di ascoltare il discorso del capo dello Stato per un ministro o ex come lui? No, non c'è un obbligo, però lui dal mio punto di vista, non può con uno spot dire no, non ascolto perché è di sinistra, cioè dire un discorso diseducativo, vecchio, mi segue? Quindi fuori luogo, perché fondamentalmente la Berlusconite non fa più pensare, capito? Il virus Berlusconite non lo fa pensare, perché io scrivo Galan. Però guardi Lorenzo, lei ha tutte le ragioni naturalmente per sostenere i suoi argomenti. Bisogna dire ad onor del vero che Galan non ha detto che non ascolta Napolitano perché è di sinistra, ha detto che sono aspetti un attimo, ha detto che sono 20 anni che ascolta discorsi dei capi dello Stato di sinistra, quindi ha fatto un discorso storico allargato, quindi non riferito quanto solo a Napolitano adesso, ma anche al passato. E questo, diciamo. Mi scusi, lei sta un po' edulcorando la situazione. No, ha detto questo, ha detto questo. Comunque non è educativo assolutamente. Va bene, perché Lorenzo. Bisogna avere l'intelligenza e la coerenza di ascoltare tutti. Sì. Lei mi può dire, domani leggerà l'articolo sul giornale, quindi comprerà un giornale in più. Benissimo. Lei l'ascolta il discorso di Napolitano stasera? Certo, perché mi interessa. Può dire anche delle stupidaggini, non lo so, però mi interessa. No, è vero. Tra l'altro io non ho fatto in tempo a dirlo a Galan, ma secondo me il discorso del capo dello Stato è un po' come il Festival di Sanremo o altre cose così nazionali. Lorenzo, mi faccia dire un attimo il mio punto di vista su questo, che bisogna ascoltarlo a prescindere, no? Per sapere, perché facciamo parte di una comunità, questo è il mio punto di vista. A me interessa per questo, non tanto per quello che dirà, perché francamente sono cose anche un po' scontate, così come magari le canzoni del Festival di Sanremo. A me piacciono queste cose perché mi danno il senso di appartenere alla comunità italiana. Questo è il mio punto di vista, se posso, Lorenzo. Sì, però è offensivo nei confronti di un'istituzione. Non può paragonarlo a un Festival di Sanremo, mi scusi, mi perdoni. Va bene, non è Lorenzo. Corretto da parte sua. È il mio punto di vista. Ognuno la vede come crede. Certo. Che le devo dire? Rappresenta il nostro Stato, è l'istituzione primaria dello Stato italiano. Nel bene e nel male devi rispettarlo. Sì, però non è che io rispetto lo Stato se ascolto il discorso del capo dello Stato Napolitano il 31 sera e viceversa non lo rispetto se cambio canale. Non è così, cioè sarebbe troppo banale. Allora io ascolto il discorso, rispetto e poi tutto l'anno faccio tutte le porcate del mondo e sono a posto? Ma posso fare una domanda? Sì. Ecco, i personaggi lei è riuscita a far nominare al governo, giusto? Hanno dato di nuovo l'incarico a questo signore, giusto? Non ho capito cosa sta dicendo, scusi. I nominati, giusto? Non gli eletti, sì. I nominati, sì. Hanno dato questo incarico al presidente, sì. al signor Napolitano, sì. Giusto? Quindi i nominati sono sostanzialmente la parte terminale anche di un suo voto, chiaro? Di un suo voto mio? Sì, suo, certo. Quindi lei, nel momento in cui i nominati hanno eletto presidente Napolitano, hanno rispettato un suo desiderio, perché sono nominati da lei, giusto? Ma Lorenzo, anche da lei. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna dare rispetto a chi fa delle scelte. Ma l'ha detto lei stesso che sono nominati, lo dice lei stesso che sono nominati e non votati, quindi il suo discorso muore subito lì, Lorenzo. Metteremo un'altra querella. Va bene. Comunque io la ringrazio per lo spazio. Grazie, io ringrazio lei per essere intervenuto. Marco dalla provincia di Aosta, buonasera. Buonasera, voglio fare una richiesta. Alle 20.30 ci sentiremo il capo dello Stato. Perché alle 20 non ci fate sentire il discorso dell'anno scorso e lo commentate? Perché sarebbe francamente un po' troppo. Due discorsi in una sera sola non ce la faremo, Marco. No, per vedere che effetto fa. Quello dell'anno scorso ha sortito effetto, sarebbe interessante. Ma è un effetto, lei dice un effetto fotocopia, perché saranno simili? Sì, per cui magari lo mettiamo nella rubrica la carta costa, l'energia elettrica per trasmettere costa pure. Va bene, grazie anche lei per la sua provocazione. Mimmo dalla provincia di Bari, buonasera. Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori. Io invece intervengo, come diceva lei prima, sì, sulle cose positive da portare dal 2013 al... Benissimo, 2014. Io comincio a segnare, ci dica che ecco, mi scrivo. Allora, senta, tutti comunque abbiamo avuto delle cose negative nel 2013, sì, però la cosa più bella è poi riportare una grande gioia nel 2014. Io ho un amico che è un vero amico con la A maiuscola, io sono dalla provincia di Bari. Il mio amico è di Avellino e ora abita a Pescara. In una mia situazione di estrema difficoltà, questo grande amico mi ha dato una grande mano, esattamente un paio di mesi fa. Cosa è successo? Che dopo che ci siamo visti, siamo stati insieme con le nostre famiglie, persona squisitissima, lei sa, i napoletani sono eccezionali, sono di grande cuore. Sì. È successo che ho ricevuto una telefonata dopo una decina di giorni dopo che ci siamo lasciati dalla moglie dicendo che Mimmo, che Claudio era in condizioni gravissime in ospedale. Era successo una mancanza di ossigeno alla persona, sì, una persona che ha lottato fino alla fine e finalmente questo capodanno lo festeggiamo. Perché adesso sta meglio? Quindi, sta benissimo. Va bene, questa è la sua buona notizia del 2013. L'amicizia ha un valore come l'amicizia. L'amicizia, sì, ha un valore eccezionale e va sempre salvaguardato anche perché gli amici... Va bene, grazie Mimmo. A noi piacciono anche delle segnalazioni come queste, personali, non importa. Poi se ci sono cose che riguardano insomma anche altre persone o addirittura la collettività, va benissimo. Sentiamo anche Vittorio dalla provincia di Torino, buonasera. Sì, buonasera. Io sono un enologo di una cantina sociale che c'è in Nord Piemonte, vicino Ivrea. Sì. E volevo dire che per me il 2013 è stato un'annata favolosa e io nel 2014 mi riporterei il 2013. Cioè, dal punto di vista proprio del vino è stata un'annata straordinaria. Ma del vino, ma sì, nel senso che secondo me le persone adesso stanno un pochettino più riprendendo possesso di quelli che sono i prodotti della terra e ho ritrovato un riscontro in questo, cioè facendo un prodotto buono, facendolo pagare bene, la gente lo compra e secondo me è quello un po' il segreto. Cioè lei dice il 2013, per quanto riguarda il suo lavoro in particolare, ma dal suo punto di vista di produttore di vino, enologo, è stato un po' l'anno della riscoperta della terra e lei spera che il 2014 si confermi questa cosa qua, perché è una via di ripresa anche per l'Italia. Sì. E faccio un appello, beviamo italiano quest'anno a Capodanno. Vabbè, però se a uno piace lo champagne, che dobbiamo fare? No, mi dispiace, ma qua no, bisogna avere italiani, bisogna essere un po' più orgogliosi. Va bene, auguri Vittorio, grazie. Un saluto, salve. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Per l'autostima che per via orale arriva, ma che belle vibrazioni con i glutei apro i meloni. Vabbè, spero che di avervi svegliato con questo brano, a voi ascoltatori, se magari vi stavate assopendo in vista dei bagordi del cenone del 31 di questa sera. Questa è una canzone di Immanuel Casto, che salutiamo, buonasera. Buonasera. Immanuel Casto, nome d'arte, lei è un musicista, un artista, ma anche un inventore di un gioco di ruolo che spopola e che ha venduto, voi dite, 10.000 copie ed è il motivo per cui l'abbiamo chiamato. Vero nome nella vita? Si può dire? Manuel Cuni, all'anagrafe, sì, certo, non c'è problema. Questa era, lei viene definito, almeno su Wikipedia, inventore del genere musicale porn groove, e già entriamo in argomento. Esatto. Allora, in realtà il termine è stato coniato negli anni 70, ecco, punto, e indicava le colonne sonore dei film porno. Poi è stato riscoperto recentemente per indicare quegli artisti che affrontano per i loro brani tematiche di natura principalmente sessuale. Ma quella voce molto maschile, così quasi baritonale, era lei? Quello che sentiva nella adesso? Canzone? Quello che sentiva prima nella canzone? Ah, sì. Beh, sì, certo. Certo. Senta, lei tra l'altro si trova in Australia. Sì, esatto, infatti, quindi mi chiedevo se la voce paritonale non era riferita a me adesso, perché mi sono svegliato 5 minuti fa appunto per parlare. Per fare il collegamento, perché in realtà lì è un orario assurdo, avete già festeggiato il Capodanno, quindi gli auguri adesso... Esattamente, sì sì, sono... siamo avanti, siamo nel futuro, il 14 è già cominciato da 4 ore e mezza. Allora vabbè, auguri intanto, in ritardo da voi e in anticipo per quanto riguarda noi. Il motivo per cui esatto. l'abbiamo convocata è questo: noi spesso ci imbattiamo in queste notizie e ci chiediamo, ma sarà segno dei tempi che cambiano, le cose che si modificano, ed è bello capire come, verso cosa stiamo andando, oppure è una trovata pubblicitaria? Perché lei è l'inventore di un gioco che si chiama Squillo Bordello d'Oriente, un gioco di ruoli, che però ha un iter un po' travagliato, perché già stato preso di mira da alcuni parlamentari, c'è stata un'interrogazione contro, perché è un gioco che è una specie di, come dire, di si inneggia un po' alla prostituzione, e c'è la figura del magnaccia. Come funziona questo gioco? Sì, certo, andiamo in ordine. Squillo nasce un po' di più di un anno fa, anzi sì. in realtà proprio il suo principalmente è stato anni fa, per puro divertimento. È un gioco satirico dove non si inneggia assolutamente alla prostituzione, ma si affrontano determinati temi con un umorismo estremo, volendo fare un riferimento pop, direi assolutamente alla South Park, quindi dove non è che ci sia una legittimazione di certe tematiche, ma con questo tipo di humor vengono affrontate. Ecco, ma facciamo un esempio, quali sono questi ruoli, queste carte? Cosa c'è ritratto certo. sopra? Allora, sì. ogni giocatore interpreta un pappone di fatto e deve amministrare un gruppo di ragazze. Un gruppo di ragazze che si dividono tra escort, prostitute di strada, quindi o più abili. Cioè, lei lo dice così come se fosse una cosa normale. Sono andata a comprare il pane o cose di questo genere. C'è cioè, un pappone che amministra certo. le escort. Non è una cosa ma proprio. Ma certo. Come ma certo? Sarà che ormai è diventato un business, quindi ne sono avvezzo, non lo sfruttamento della prostituzione. Ah, ecco, attenzione, perché se la fai ci arriva la denuncia. perché lei vive nel porno, lei cosa fa? Ha fatto anche film porno o solo le colonne sonore? No, quello è un sogno nel cassetto, però per ora sì, mi sono limitato alla musica. Però vorrebbe anche recitare, perché no, in un film porno? In realtà sto più pensando alla regia, perché è da anni che mi occupo della regia dei miei videoclip. Sì. Però, boh, chissà, la cosa mi frena un po' è che mi piacerebbe avere degli attori veri, spesso non si prestano poi al porno. Senta, ma torniamo al gioco però, no? Sì, certo. Dice, per lei è normale, però forse per molta gente non è così. Ma quindi ci sono questi ruoli, il pappone, le escort, eccetera. E chi è che vince, per esempio, nel gioco? Allora, fondamentalmente bisogna monopolizzare il mercato della prostituzione, quindi eliminando la concorrenza. E lo si fa concretamente, bisogna proprio eliminare la concorrenza con armi fisiche che si acquistano mandando le proprie ragazze a prostituirsi e pagando loro interventi plastici per incrementare gli introiti di colpi. Ah, quindi proprio un gioco senza esclusione di colpi, cioè si ammazzano fisicamente gli avversari, un po' come nei film dei gangster americani. Esattamente. Ma è un po' forte come cioè non è che proprio tutti la mattina si svegliano e pensano che queste cose siano normali. Però voi ne avete vendute quante copie? Così dite voi almeno. Allora devo dire che io personalmente non sono particolarmente veniale, non seguo troppo l'aspetto economico, sono più concentrato sull'aspetto creativo. Però sì, l'ultima volta che mi hanno aggiornato eravamo sulle 10.000 copie. Poi in realtà il gioco non si intitola tanto Bordello d'Oriente quanto Squillo. Bordello d'Oriente è la prima espansione, ossia il secondo capitolo pubblicato che ha per tema l'Oriente. Secondo lei molte persone, perché insomma nei giochi di ruolo o comunque nei giochi si mette in atto l'immaginazione, no? La fantasia, uno si figura quello che potrebbe fare, cioè c'è gente che pensa che, di poter fare il magnaccia. Perché è una cosa un po' forte. Sì, però se siamo in un ambito totalmente ludico, quindi totalmente astratto, se entriamo nel, non so come dire, nel merito, allora verrebbe da dire, Risico è un gioco di guerra dove l'obiettivo è sterminare le altre popolazioni. Sì. Mi sembrerebbe peggio. Beh, non ha tutti torti, però forse Monopoli sì. in cui bisogna schiacciare gli altri concorrenti anche attraverso lo strozzinaggio. siamo in un ambito di totale fantasia, con un gioco che ha uno humor. Però anche le armi giocattolo, no? Si vendono. Però e i bambini che ci giocano possono immaginare di essere, che ne so, i salvatori dell'umanità. Nel suo gioco c'è una figura positiva, qualcuno che voglio dire, nel quale ci si può immedesimare sentendosi tranquilli, oppure bisogna immedesimarsi per forza in qualcosa di squallido, come può essere, per esempio, insomma, Magnaccia? Perché. Bordello d'Oriente si può ricevere la visita del Dalai Lama. Ah, e cosa fa il Dalai Lama nel suo gioco? Offre un momento di sollievo spirituale e quindi si è protetti dagli eventi divini. Ah, però. E poi? La polizia non entra nel gioco? Non viene a chiudere i bordelli? Sì, i bordelli non ci sono perché il gioco è ambientato in Italia, quindi le case chiuse non ci sono. Però sì, c'è la rettata della polizia che può rubare i potenziamenti che sono ad esempio le armi. Senta, ma al di là poi insomma, delle proprie convinzioni, io ho detto c'è stato credo una parlamentare che ha fatto un'interrogazione contro questo gioco, figuriamoci, volevano vietare il Monopoli, se non vogliono vietare un gioco come il suo che è un po' più spinto. Ma sul fenomeno della prostituzione, molti dicono che insomma bisognerebbe regolamentarla e farla finita con le ipocrisie, anzi forse trarne un vantaggio fiscale per il paese. Lei è d'accordo, credo, su questo, no? Sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti il problema non è la prostituzione, che nella misura in cui è una scelta, secondo me, andrebbe regolamentata e tassata. Il problema è lo sfruttamento e le realtà che purtroppo si nascondono dietro di esso. Proprio adesso qui in Australia, dove mi trovo, mi sono informato, e nello stato di Victoria, ad esempio, dove c'è Melbourne, la prostituzione è legale nei bordelli. E quindi avviene è regolarizzata, quindi sì, anche dal punto di vista fiscale, forse. Assolutamente dal punto di vista fiscale. Va bene, Emanuele Casto, auguri intanto, grazie ancora per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Un caso, grazie il suo gioco Squillo Bordello d'Oriente, 10.000 copie vendute, è anche un po' una trovata sicuramente pubblicitaria per un personaggio che fa tante cose, però se sono state vendute 10.000 scatole vuol dire che qualcuno ci sta giocando, anzi a me piacerebbe stasera che qualcuno ci chiamasse all'800 24 00 24 per dirci che ci ha giocato, si è divertito e che, come diceva lui, è un po' come giocare a risico, no, in fondo, che differenza c'è? Vabbè, sentiamo un po' di ascoltatori. Gregorio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Lei lo conosceva, Squillo, Bordello d'Oriente, questo gioco in scatola che pare che stia andando a ruba? No, ovviamente no. No, veramente no, perché... ma non lo conosce nessuno, credo. Secondo me le 10.000 copie vendute sono tutte nella fantasia del soggetto che abbiamo sentito poco fa. Però, chi lo sa? Io chiamavo soltanto per fare gli auguri a tutti voi di Radio 24. Sì, la sentiamo malissimo, non so se... Pronto? Ecco, adesso sì. Dicevo, volevo fare gli auguri a tutti voi di Radio 24, che è una radio che seguo con piacere sempre. E poi volevo, siccome sentivo prima parlare di Napolitano, sì? Ecco, volevo spendere qualche parola per il Presidente, perché ritengo che ce ne vorrebbero parecchi di Napolitano in Italia, perché purtroppo questo paese sta vivendo una crisi molto dura e abbiamo bisogno di unità e non di divisione o di gente contro, e mi sembra che Napolitano, tutto sommato, senza dare giudizi in merito al governo delle larghe intese, sia perlomeno riuscito a mettere insieme un po' di gente per vedere di fare qualcosa di positivo. Quindi lei, per esempio, tra le buone notizie, belle notizie del 2013, metterebbe anche la nascita del governo Letto, governo di unità, quindi un tentativo di venirsi incontro, superare le difficoltà. Quindi lei la vede positivamente questa operazione del governo Letta? Ma io non solo la vedo positivamente, ma ritengo che sia l'unica operazione possibile in questo contesto. Perché se sentiamo quello che dice Grillo, quello che dice Berlusconi, eccetera, è tutta gente che... che tende a dividere il paese, no? Noi ce la possiamo fare se siamo veramente una nazione, siamo una nazione giovane, ma dobbiamo imparare ad essere una nazione, cioè essere un popolo di gente che lavora. Grazie Gregorio, dobbiamo fermarci qua. Buona serata, auguri anche a lei. 800 24 00 24. Torniamo dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Buonasera, buonasera e di nuovo auguri a tutti gli ascoltatori. 800 24 00 24. Buonasera da Alessio Maurizi. Staremo insieme questa sera fino alle 20.30. Poi ci sarà il discorso del capo dello Stato Giorgio Napolitano. Ma abbiamo sentito poco fa Giancarlo Galan, onorevole di Forza Italia, uno di quelli che dicono quest'anno boicottiamo il discorso del capo dello Stato. Un'iniziativa, tra l'altro, di Giuseppe Moles, un onorevole di Forza Italia, che in questa lettera scrive: il 31 dicembre spegni il presidente e manda in onda il tricolore. Constatiamo con sconcerto e amarezza che le continue esternazioni del capo dello Stato appaiono sempre più come il segno dell'abbandono del suo ruolo istituzionale di garanzia, per porsi invece come paladino e tutore della sopravvivenza e delle istanze di una maggioranza e di un governo non scelti dai cittadini. Queste sono le parole scelte da questi esponenti di Forza Italia, ma c'è anche la Lega, insomma, che intendono boicottare il discorso del capo dello Stato. Adesso abbiamo i titoli del TG3. Tra poco il messaggio di fine anno di Napolitano, il discorso richiami al lavoro, alle riforme, al disagio sociale, alle risposte da dare ai giovani. Nuovo violento attacco di Grillo, è l'ultimo cenone di una classe politica condannata a morte, i suoi denunciano trucchi sugli affitti d'oro. Da domani un mese cruciale per Letta, dal pressing di Renzi al patto di coalizione, le sfide più importanti, lavoro e legge elettorale, Lupi ospite al TG3. Schumacher nuovamente operato nella notte, i medici: ci sono piccoli miglioramenti, ma la vita del campione resta appesa a un filo, ore decisive. Un rappresentante di commercio a Torino fa una strage, uccide moglie, figlia e suocera, poi si spara, aveva perso il lavoro un mese fa. L'odissea delle famiglie italiane bloccate in Congo, non torniamo senza i nostri figli adottivi, nel paese africano la tensione resta altissima. In Sardegna è impossibile dimenticare il 2013 che finisce, è stato l'anno dell'alluvione, 18 vittime, un disperso, milioni di danni e pesanti responsabilità. Abbiamo chiuso il 2013 salutando la cancellazione di questa legge, il decreto Salva Roma, il decreto vergogna, perché dentro c'era veramente di tutto, le cosiddette legge mancia, cioè fondi a quello e a quell'altro in tutta Italia, iniziative le più sparse, le più sporadiche, le più originali, le più assurde. C'è stata una levata di scudi in Parlamento da parte delle opposizioni, Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega, anche SEL, e poi insomma il governo ha fatto marcia indietro, e questa è storia di questi ultimi giorni. È stato approvato un decreto alternativo, il mille proroghe, però attenzione, andate a guardare, perché dentro il mille proroghe c'è di tutto, di nuovo lo stesso, cioè le stesse cose che sono state spostate di là dopo che è intervenuto anche Napolitano dicendo una schifezza, bisogna cambiare i regolamenti parlamentari, eccetera eccetera. Allora io so che già oggi durante Focus Economia Simone Spezia vi ha letto alcune di queste cose, ma io ve ne leggo delle altre perché è incredibile. Allora intanto ringrazio Dario Nardella del Partito Democratico, perché lui ha postato su Twitter l'elenco, insomma, di queste voci di spesa che sono state approvate. Allora ci sono 100.000 euro per esempio per la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, poi ci sono 200.000 euro per il Museo dell'Emigrazione Italiana, oppure 200.000 euro, questo è incredibile, per le agenzie specializzate, servizi di stampa per gli italiani all'estero, cioè gli italiani all'estero devono leggere le agenzie di stampa sull'Italia, non lo so esattamente che cosa, non possono comprare i giornali come tutti, 200.000 euro, oppure l'orchestra di Verona, i virtuosi italiani, 300.000 euro. Ora può darsi che l'orchestra, i virtuosi italiani sia benemerita, la più benemerita di tutte, ma perché dentro una legge che non c'entra nulla bisogna finanziare con 300.000 euro questa orchestra, oppure dare all'istituto latinoamericano 500.000 euro? È una follia, non è la prima volta, intendiamoci, probabilmente andando tra le pieghe di molte altre leggi si trovano cose di questo genere. Ma non va bene, non va bene, spiacevole, 1 milione di euro per il Teatro San Carlo di Napoli. ci saranno delle ragioni sicuramente, un'istituzione benemerita, per l'amor del cielo, 1 milione di euro però sono tanti, così come 3 milioni di euro in 3 anni vanno per l'assunzione di cittadini alle dipendenze di organismi militari della comunità atlantica. Boo. Oppure, adesso poi arriviamo a un punto che toccheremo più avanti, 2 milioni di euro per l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche per rafforzare le proprie attività di promozione e di certificazione del marchio ospitalità italiana, ristoranti italiani nel mondo. Sicuramente il turismo italiano è una grande industria e ha bisogno di essere rilanciata, ma dubito che creare degli istituti, degli organismi burocratici come questi che assumono persone e mangiano soldi serva assolutamente a qualcosa. Ci sono anche 3 milioni di euro, per esempio, per il diritto di prelazione d'acquisto dell'isola di Budelli, lo Stato che si ricompra un'isola privatizzata. Questa è una storia che andremo a raccontare tra poco. La raccontiamo subito, sì, salutiamo l'avvocato Carlo Mastellone, buonasera. Buonasera a lei. Avvocato di Michael Hart, ho pronunciato bene? Benissimo. Che è un magnate, di che paese, di che nazionalità? Guardi, è un neozelandese, direi sì. Che non è un magnate. Insomma, è stato definito così. Un banchiere. E non lo definirei un magnate, ma un appassionato della tutela dell'ambiente e dell'ecologia. Ecco, acquirente appunto dell'isola di Budelli. Siamo nell'arcipelago della Maddalena, dico bene? Esatto. Un'isola che è privata da 2 secoli, dal 1800, per tradizioni che non stiamo a spiegare, non ci interessano, ma che a un certo punto, facendo parte di una società che è andata fallita, è stata messa all'asta e il nostro banchiere Michael Hart si è fatto vivo per acquistarla e l'ha ottenuta per 3 milioni di euro. Apriti cielo, perché una serie di associazioni ambientaliste di tutela del paesaggio, anche se questa è un'isola con vincoli per cui non ci si può costruire sopra, questo né prima né dopo, hanno detto: ma come un'isola così, perché non se la riprende lo Stato e va a un privato? E questo è stato il primo, diciamo, il primo punto di questa vicenda. Quando avveniva tutto questo, avvocato? Ma guardi, l'asta giudiziaria al Tribunale di Tempio Pausania si è svolta il 1 ottobre. Di quest'anno? Di quest'anno. Noi ci siamo presentati con una busta, con dentro l'offerta. Sì. All'apertura delle buste si è scoperto che non c'erano altre offerte, eppure sono mesi e mesi che anche sulla stampa si parla dell'asta dell'isola. Ci siamo presentati e abbiamo offerto quello che era la valutazione del perito nominato dal tribunale e, essendo gli unici a esserci presentati, è stata giudicata. Ecco, intanto una curiosità, perché 3 milioni di euro per comprarsi l'isola di Budelli, detta così, non sono molti. Cioè, se io e 4 amici ci mettiamo insieme e facciamo un mutuo, ce la facciamo. Normalmente sentiamo parlare di cifre molto più elevate. Perché il prezzo non è altissimo per questa isola, intanto? Beh, innanzitutto perché non ci si può costruire assolutamente niente, neanche un centimetro quadrato. Secondo, perché per mantenere l'isola occorrono notevolissimi interventi che il mio cliente, il signor Hart, insieme alla fondazione che intende costituire, alle associazioni ambientalisti, a quelle che a livello internazionale concorrono per la tutela dell'ambiente, vuole fare questo investimento. Ecco, ma se non ci si può costruire sopra un centimetro quadrato, cosa ci si può fare con questa isola? Cosa c'è attualmente? Cioè, ci si può andare a fare balneazione? Uno cosa ci può fare? Ci può mettere una tenda? Cosa c'è adesso sull'isola? No, sull'isola al momento c'è un solo manufatto, chiamiamolo così, che è una casa del custode, nel quale c'è un custode. Devo dire che in condizioni abbastanza pietose questo manufatto andrebbe rimesso a posto. Sì. Dopodiché, se lei si vuole avvicinare, può andare in una spiaggia, che non è questa, la spiaggia rosa, naturalmente chiusa. La famosa spiaggia rosa di Budelli, sì. La spiaggia rosa è preclusa, però comunque sull'isola si può accedere da un'altra spiaggia, per cui le persone camminano tranquillamente. Ecco, ma questo manufatto, intanto, quanto è grande questo manufatto restaurabile che si può restaurare? Il manufatto sarà 90 metri quadrati. Quindi parliamo di una dimensione veramente non è grande, non è che si ristruttura e guardi, ci viene fuori la villa. È una casamatta costruita durante l'ultima guerra per questione di difesa, quindi lei si può anche immaginare che cos'è. È un brutto attrezzo che è lì e che viene utilizzato dal custode. Il problema però è che l'isola non è che va comprata, l'isola va conservata. Lei pensi che il parco ha detto che c'è una malattia che ha colpito il ginepro, sì. Noi abbiamo fatto il conto che soltanto per la cosiddetta rivegetazione del ginepro di Budelli occorre investire €1 milione. Per asportare i detriti, e le assicuro che ci sono detriti dappertutto, occorre €1 milione. Per risanare la Posidonia, €1 milione. C'è poi un progetto del parco che si chiama Accesso Comodo, che è un progetto molto intelligente, il Parco Nazionale. Loro vorrebbero regolamentare l'accesso e soprattutto fare in maniera che quindi le ancore delle barche non vadano a rovinare le Posidonie e che ci siano cose tipo, non so, una sorta di dei bagni chimici, dei luoghi dove gettare i rifiuti, perché attualmente non c'è niente, dei camminamenti sui quali poter passare senza rovinare la flora e che c'è sull'isola terrestre. E hanno ideato questo progetto che risale però a 10 anni fa, mettere delle boe, degli ancoraggi, installazioni di sistemi di approdo, sì, galleggianti. Tutto questo però costa circa €2 milioni. Allora, se lo Stato investe €3 milioni, ci si domanda poi chi è che si preoccuperà della conservazione e di fare di, sì, questa isola, che è una vera perla. E questa è una tesi che in effetti credo che anche Lega Ambiente vi sostenga, diciamo, il progetto del suo cliente, o ho capito male? No, ha capito benissimo. Però ecco, aspetti un attimo, però prima di entrare su questo, io faccio un altro passo in avanti in questa vicenda, perché abbiamo detto l'asta, il suo cliente si è presentato, ha offerto i €3 milioni, c'è stata una petizione che è partita per ripubblicizzare, invece per far acquistare da parte dello Stato, rientrare nella proprietà, per chi ritiene che sia corretto questo, dell'isola, però c'era una norma di una legge del governo Monti che impediva, diciamo, ai comuni di acquistare beni immobili sotto spending review sostanzialmente. Ecco allora che nelle leggi di fine d'anno si sono inseriti, e così il cerchio si chiude, delle previsioni di spesa, si sono fatte le modifiche necessarie affinché entro, credo, i primi di gennaio si riapra questa possibilità per lo Stato di rientrare in possesso con, diciamo, utilizzando il diritto di prelazione. Esatto, ecco. C'è una norma nella legge di stabilità, sì, che prevede che un'eccezione al divieto per gli enti pubblici e lo Stato di acquistare immobili fino al 2014, questa è la legge Monti, per cui sostanzialmente sono stati messi a disposizione del parco €3 milioni per esercitare il diritto di prelazione. Allora, a questo punto è interessante, 800 24 00 24, cari ascoltatori, io vorrei sentire anche il vostro parere tra poco su questo, cioè meglio un'isola privata in mano a un signore che promette di fare degli investimenti per mantenerla così com'è dal punto di vista paesaggistico, garantendo a tutti quelli che ci vogliono andare di andarci e fare quello che si è sempre potuto fare, oppure meglio un'isola riportata in mano pubblica col punto interrogativo, però, che con le spending review e con le limiti oggettivi di cassa che abbiamo in questi anni, sicuramente non è chiaro se mantenere e anzi far crescere un'isola come quella di Budelli sia una priorità per un comune o per una provincia o per uno Stato di questi tempi. Avvocato, a questo punto... Sì, mi consenta però, sì, la domanda andrebbe completata, nel senso che il HART propone la creazione di una fondazione Onlus con dotazione iniziale, sì, di €1 milione per svolgere una serie di attività di ricerca e soprattutto per gestire la conservazione non solo di quest'isola, ma in un contesto più ampio, perché l'acqua, lei capisce, è un liquido, per cui stiamo parlando di qualcosa che deve coinvolgere anche tutte le bocche di Vanifacio, sì, possa adoperarsi per una serie di iniziative di conservazione dell'ecosistema. Quindi c'è anche questo progetto di questa fondazione, sì, con un comitato scientifico, con che sono tutti studiosi, biologi marini della Stanford, dell'Università di Nizza, dell'Università di Sassari, dell'Enea, che hanno già aderito, sì, e sotto il cappello della fondazione viene costituita un osservatorio, si chiama Osservatorio della Vita Marina, che spiegherà, che farà quindi delle analisi costosissime tra l'altro, e poi spiegherà quali sono le migliori tecniche per la conservazione dell'ecosistema. Ecco, ma lei che è un avvocato però, mi sa spiegare perché questa isola è stata sempre privata? Cioè, perché c'è un pezzo, diciamo, di suolo pubblico, tra l'altro in un posto così meraviglioso, che non è pubblico ma è privato? No, ma mi perdoni, tutto l'arcipelago è privato, tutte le isole, Razzoli, sì, ma perché? Ma sono sono sempre state private. Mm. Lei pensi che... Cioè le isole sono, diciamo, accade che... Addirittura Benigni a casa. Cioè, le isole sono tutte private. Chi, scusi? Chi è che a casa? Benigni. Benigni a casa in una delle quattro isole dell'arcipelago? Sì, sì, assolutamente. Ma l'isola è sua? No, non l'isola, è un pezzo di proprietà, sì. Anziché essere sua, sarà uno dei... Non so, cioè ognuno ha un pezzettino dell'isola e tutte le quattro le isole sono sì, in mano private. Sono tutte di tanti proprietari, questa Budelli per l'appunto è di un solo proprietario, così come Spargi è di una, mi sembra di una toscana, una persona... E quindi le dice, perché dovete venirvela a prendere con Art, che ci vuol fare una fondazione, una cosa aperta a tutti, quando ci sono quelle a fianco che sono private e gente che ci sta e ci fa i cavoli suoi? Questo è anche un po' quello che lei dice, mi sembra. Sì, io sto dicendo che non sono pubbliche e che comunque questa continuerebbe ad essere privata. Comunque il punto non è il privato e il pubblico, mi perdoni. Sì? Il dibattito non dovrebbe essere pubblico o privato, dovrebbe essere... Lo Stato mette i vincoli. Se tutto ciò che dobbiamo preservare deve essere pubblico, sì? Allora lo Stato dovrebbe comprare mezza Italia. Il senso di tutta questa discussione è lo Stato metta tutti i vincoli, deve mettere i vincoli, e lo sta, e poi il privato, con un partenariato pubblico-privato, fa l'investimento, parlando di investimento ambientale, culturale, per tutelare l'isola che gli appartiene. Perché comunque, ribadiamolo, voi con questo progetto che lei rappresenta come avvocato ci state dicendo che non cambierebbe nulla dal punto di vista dell'accessibilità all'isola per quanto riguarda il turismo, per esempio. Migliorerebbe, sarebbe regolamentato, diventerebbe veramente il sogno di noi italiani, sì. Questo lo dico a prescindere dal fatto che sono l'avvocato, cioè di avere un museo all'aria aperta nella quale ci sono dei percorsi dedicati con una spiegazione, per cui noi andiamo lì come se andassimo in un museo. E le motivazioni, giusto per chiudere, del suo cliente Michael Hart sono una passione per la natura? È un grande appassionato, è un funzionario di elevatissimo rango di una banca che ha 11.000 dipendenti, sì. Che gli ha concesso due mesi all'anno per potersi dedicare a questo, perché la banca ritiene che se un suo elevatissimo funzionario, beato lui, fa questo, fa fare anche bella figura alla banca come ritorno d'immagine. Questo è un signore appassionato che ci fa questo e sta offrendo un'opportunità, peccato che allo straniero si debba dire di no. Va bene, staremo a vedere. Quando scadono i termini per questa vicenda? Credo i primi di gennaio? L'8 gennaio è il termine entro il quale dovrebbe essere esercitata la prelazione. Noi abbiamo fatto un appello prima a Matteo Renzi e adesso anche al ministro Orlando perché riveda la situazione e ci sia un po' un ripensamento. Speriamo si capisca che qui si sta parlando di un investimento privato che può portare benefici di circa 8-9 milioni di euro, tutti a fondo perduto perché sono senza scopo di lucro, per conservazione ambientale e quindi, se vogliamo, anche per portare crescita. È un'immagine diversa, è l'approccio neozelandese che non più neanche la green economy, la blue economy, l'economia blu che va oltre la verde. Va bene, grazie avvocato Carlo Mastelloni, grazie Mastellone per essere stato con noi. Il progetto, auguri anche a lei naturalmente, magari ci sentiremo più avanti, vedremo come è andata a finire questa vicenda, auguri. Molto volentieri, grazie anche a lei. Il progetto, avete sentito, del magnate neozelandese di portare avanti il paradiso, diciamo così, ambientale dell'isola di Budelli, però in mano a un privato. 800 24 00 24, che facciamo? Sentiamo qualche ascoltatore che abbiamo lì in attesa già da un po', Antonio dalla provincia di Treviso, buonasera. Sì, buonasera, salve. Prego. Volevo riallacciarmi al discorso del 2013 o 2014, faccio le cure a tutti quanti. Grazie. E volevo dire che forse il 2014 dovrebbe essere l'anno in cui un po' tutti noi smettessimo un po' di parlare e cominciassimo un po' a fare. Perché in questi ultimi anni si è parlato tanto contro la nostra classe dirigente, contro i politici, contro questo, contro quell'altro, però io nel 2013 appunto volevo portare questa cosa positiva al 2013 contro tutto e tutti. A gennaio del 2013 ho aperto un'azienda, abbiamo chiuso il primo esercizio, assolutamente inutile, abbiamo recuperato tutto l'investimento fatto iniziale. Cavolo, in un anno e poi sei stati molto veloci. Abbiamo assunto quattro ragazzi under 20 2025, e quindi assolutamente è stato un anno positivo, di molta soddisfazione, ed è un, volevo dare un segno perché in Italia le cose si possono fare, nonostante tutto e tutti si possono fare. Quindi, senta, di cosa si occupa la vostra azienda? Noi siamo un'azienda di servizi, facciamo servizi ai privati nel campo dell'animazione e anche servizi alle aziende nel campo della creazione e gestione database. Ed è un settore che insomma sta andando bene, vi sta dando soddisfazioni? È un settore che ci ha dato soddisfazioni, abbiamo raggiunto il risultato del primo esercizio con il rientro di tutto dell'investimento fatto, parte di questo investimento è già stato reinvestito in azienda durante quest'anno in attrezzature, materiali e nuove idee per l'anno prossimo, e quindi siamo pronti nel 2014 a fare il salto, insomma, e sicuramente è un'azienda che si sviluppa su tutto il territorio nazionale con una rete di agenzie, sì. Siamo in 15 e quindi noi gestiamo la parte del Veneto e ci sta dando molte soddisfazioni, quindi ripeto, è soltanto un piccolo esempio di una cosa che si può fare. Mi bravissimo, hanno dato del basso, mi hanno dato del folle, ma effettivamente si può fare. Bravo Antonio, grazie, auguri, in bocca al lupo. Dalle, auguri, e sicuramente anno, sarà una delle storie che andremo a risentire nel corso dell'anno con il programma Si può fare, il sabato e la domenica mattina, per vedere poi se in effetti le cose si confermeranno, i buoni propositi, per esempio nel caso di questa azienda, di andare avanti, anzi di crescere ancora di più, di confermarsi in questo settore, che non ho capito benissimo qual era, e di anzi magari fare qualche cosa di più. Elios da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Salve, innanzitutto voglio fare i complimenti per la sua conduzione. Grazie. Assolutamente. E poi io chiamavo poi invece per Emanuele Castro, per il gioco Squillo, perché era stato un po' liquidato dicendo ma non lo conoscerà nessuno, mentre invece insomma lo conosco dagli albori. Diciamo, lei è un parente di Emanuele, cos'è, il cugino? No, faccio lo stesso mestiere in realtà, ma non sono un parente, anzi siamo in concorrenza, lui mi fa una grandissima rabbia. Però lei lo conosce perché fa lo stesso mestiere, cioè che mestiere fa? Perché non si è capito bene Castro cosa faccia nella vita. Ma lei fa l'art director, sì. Ovvero ci occupiamo di pubblicità. Ecco, anche lei fa questo. Anche io faccio questo, quindi lo conosco innanzitutto come concorrente, quindi sarebbe un mio nemico. Sì. In più, nel tempo che io mi sono messo a progettare un gioco, anch'io, un gioco da tavolo, lui è riuscito a farlo uscire. Per ma siete tutti, cioè voi art director siete tutti inventori di giochi da tavolo, cioè è un po' la moda del momento? Cos'è? No, sono noi due. Però lui riesce dove io fallisco, e questa è una cosa molto bella, sì. Vabbè, e tra l'altro entrambi a Bologna, anche se lui non è di Bologna, sì. Però entrambi lavoriamo lì. Ma io ho detto così, chissà se qualcuno ci avrà giocato, ho minimizzato più che altro per stimolare gli ascoltatori a chiamare, vede, poi lei ci ha chiamato, in realtà si è riuscito a farlo, a crearlo, perché esiste, cioè è in vendita, in distribuzione, io ho visto, ci sono le immagini sul sito eccetera, evidentemente è una cosa che funziona, che è stata creata, che c'è adesso, sì, poi sì, è presente anche dentro delle ludoteche, cioè conosco diverse persone. Nelle ludoteche per bambini non credo, però, perché no, vietate no, ai minori. Ah, quelle dove per gli adulti, dove ci sono i giochi ragazzi. In scatola, in quei bar, diciamo che ludoteche, esattamente, come dice lei. A Bologna è diffuso, c'è. Sì, è un'istituzione ormai, Squillo, adesso non è vero che non è così, però comunque no, è conosciuto, è molto conosciuto. Alla fine, a lei piace magari questo gioco? Si è divertito? Sì, alla fine è molto divertente. Cioè, le duole ammetterlo perché è un concorrente, però lei si è divertito. Sì, va perché bene. È molto dissacrante alla fine come gioco, e quindi preso con la giusta ironia. Non c'è niente di offensivo secondo lei? No, cioè, i contenuti sono tutti così offensivi che mettono quasi la persona di fronte a un dubbio morale ogni volta che vede una carta, ti chiedi se devi ridere o se devi indignarti. E quindi secondo me è molto bello come cosa. Perché detto così è molto bello perché fa riflettere, fa anche un po'... smuove un po' anche, no? E magari certi pensieri, certi luoghi comuni su questa vicenda. Va bene, grazie Elios, grazie per questa sua telefonata. 800 24 00 24. Elios, ce l'abbiamo ancora? No, caduto. Io volevo chiedere il buon proposito o la bella notizia, magari appunto realizzare anche lui un gioco di ruoli come quello di Manuel Castro. Tiziana da Latina, buonasera. Tiziano, buonasera. Vabbè, innanzitutto auguri di buon anno e fine anno a tutti quanti. Niente, io richiamo per quanto riguarda il discorso del presidente, il nostro presidente della Repubblica. Niente, io non lo sarò uno di quei tanti che non l'ascolterà, perché penso che il presidente non è il mio presidente della Repubblica. Questa è una mia opinione. Io sono sempre stato di sinistra, e diciamo che sono 3-4 anni che la sinistra ormai non mi rappresenta assolutamente più, perché non ha più gli ideali veri della sinistra. E niente, questo. Senta, però ha sentito il primo ascoltatore che ha chiamato, ha detto, commentando però l'intervento dell'onorevole Galan, che ha detto la stessa cosa che ha detto lei, diceva però bisogna ricordare che Napolitano ha un ruolo istituzionale, quindi per esempio se un onorevole invita a boicottare gli fa un torto anche dal punto di vista istituzionale, cioè uno sgarbo istituzionale. Ora lei è un libero cittadino, quindi è chiaramente liberissimo di non ascoltare Napolitano. Cosa ne pensa però dei politici che fanno la stessa cosa? Niente, io penso che comunque il nostro Presidente della Repubblica, Napolitano, non è stato eletto dal volere del popolo. È stato, come si dice, ma ormai va di moda questa parola, è stato un inciuccio tra la destra e la sinistra per, secondo me, secondo mio parere, comunque secondo parere tanta gente, per diciamo allontanare e distaccare il Movimento 5 Stelle, che ha raggiunto il 23-24% della popolazione. E diciamo che comunque il Movimento 5 Stelle è unico partito che ha raggiunto, che ha avuto penso che è il 23-24% comunque del volere del popolo, mentre gli altri sono tutta la unione di partiti, il 2% più il 5 più il 10, cioè non lo so. Senta Tiziano, abbiamo capito quello che sta dicendo. Ce l'ha lei una bella notizia del 2013 che vuole condividere con noi, portarsi nell'anno prossimo? Una buona notizia, speriamo che vada tutto bene. Ecco, va bene. E perché. Così. Ah, poi un'altra cosa. L'ho colto impreparato, sì, mi dica. Sì, volevo fare anche un altro esempio. Si ne parla tanto in questi giorni delle persone, dei extracomunitari che si sono cuciti la bocca. Questa sì. È la mia opinione, che non c'entra niente da quanto parlavamo prima del Presidente. Volevo dire, ma come mai è successo uno scandalo con questi extracomunitari che si sono chiusi la bocca, cuciti la bocca, mentre per quanto riguarda la gente che si dà fuoco in piazza perché non arriva più a fine mese, non se ne parla mai. Se ne è parlato anche di quello. Radio 24 ne ha parlato per mesi di questa cosa qua, quindi non è vero. Grazie Tiziano, buona serata, auguri anche a lei. 800 24 00 24, facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, siamo in attesa di collegarci con il sindaco di Roma, Ignazio Marino, col quale abbiamo appunto concordato l'intervista, però proprio in questi secondi ci stanno passando la telefonata, però forse è meglio aspettare ancora un attimo. E allora sentiamo un ascoltatore, 800 24 00 24, no, non facciamo l'ascoltatore, facciamo Marino, fatemi un cenno, no, facciamo l'ascoltatore, Alessandro da Udine, buonasera. Buonasera e buon anno a lei e a tutti gli ascoltatori. Prego. Allora, io volevo parlare dell'isola di Budelli, dicendo sì. Questo, no? Che il progetto, come è stato presentato sì. Dall'avvocato, è una cosa molto santa e molto giusta, però sa, a pensare male si fa peccato, ma molto spesso si azzecca, no? Se dopo, tra qualche anno, io lì ci ritrovo una bella colata di cemento armato a bubina, come... Sì. Come ce n'è da tutte, come ce n'è da tutte, come le c'è, da, come da, c'è tutte le parti, in troppi luoghi, sì, però guardi che quello è un luogo vincolato e quindi non quindi è possibile. Bisogna garantire che dopo, se qualcuno si costruisce lì, che lì ci arrivi il tritolo, insomma, cosa che in Italia molto raramente arriva. Saluto e rinnovo gli auguri. Alessandro, lei vorrebbe per esempio che si demolissero di più gli ecomostri che ci sono in giro, no? Quelle che... Ma ce ne sono 100.000 di ecomostri in Italia, insomma. Basta girare dalle parti del Vesuvio, insomma, per vedere quanti ecomostri che sconfinano anche nei qualcosa parti nazionali. Qualcosa però si è fatto anche quest'anno, non le so a mente, ma ne abbiamo date di notizia, si può fare. Ci continui a seguire il sabato e la domenica, perché di queste cose parliamo spesso. Grazie Alessandro, adesso però è il momento, come dicevamo, di salutare il sindaco di Roma, Ignazio Marino, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito e buon anno a tutti coloro che ci ascoltano. Auguri, lei viene dal Vaticano, se non ho capito male, sta andando a un'altra commemorazione a Roma, l'abbiamo strappato a pochi secondi tra un impegno e l'altro. sì, è una giornata impegnativa, una giornata importante, è una giornata anche che vuole segnare l'inizio di un nuovo anno che io spero che a Roma e in tutta Italia sia di ripresa economica, in modo da poter dare sollievo alle tante famiglie che in questo momento sono in difficoltà. Senta, lei ieri ha parlato a proposito della questione dei rifiuti, perché c'è stata quella foto che lei era in vacanza, ha visto la foto dei maiali attorno a quei cassonetti dei rifiuti, ha annunciato misure straordinarie, comunque incrementare gli investimenti, la spesa su questo fronte. Però è vero che voi inizialmente avevate ipotizzato anche una foto fatta ad hoc per mettere un po' in crisi anche lei, l'amministrazione, la giunta? Sicuramente c'è stato un po' di costruzione in quel messaggio mediatico di questi maialini portati da un allevatore vicino ai cassonetti dell'immondizia, ma non c'è dubbio che Roma era sporca e io mi sono molto arrabbiato, molto irritato, molto indignato e ho fatto immediatamente convocato i vertici dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nella nostra città domenica e poi lunedì abbiamo tenuto una giunta straordinaria perché abbiamo voluto investire i nostri fondi di riserva della capitale per un'operazione di decoro, di pulizia della città e la stiamo facendo, la città è in queste ultime ore decisamente migliorata e nella prossima settimana cambieremo i vertici dell'azienda, sì. Avremo una dirigenza nuova nell'azienda della raccolta dei rifiuti perché, lo dico con simpatia, una dirigenza che si ricordi che quando arriva Natale e arriva Capodanno per fatti naturali, i regali, i cenoni, c'è un aumento, un incremento. C'è un aumento di rifiuti e non ci si può permettere di diminuire il personale che lavora perché si mette in difficoltà tutta la città. Senta, abbiamo pochi minuti, io poi la lascerò ai suoi impegni, le voglio fare un altro paio di domande però, perché abbiamo chiuso l'anno, io ho detto poco fa, con la sospensione del decreto Salva Roma, è stato approvato il mille proroghe, ci vuol dire però, vuol dire agli italiani, non ai romani, perché si devono spendere dei soldi, si devono investire alcune centinaia di milioni di euro per Roma, insomma, per salvare Roma dal deficit, perché gli italiani... Aveva un disavanzo che io, essendo eletto a giugno di quest'anno, ho trovato di quasi un miliardo di euro, perché erano stati spesi soldi che non c'erano. Mario Monti aveva diminuito i trasferimenti di denaro a Roma di circa 500 milioni di euro l'anno e la giunta precedente aveva continuato a spendere come se quei soldi ci fossero, come se in una famiglia tra i due genitori uno perde il lavoro e invece di ridimensionare le proprie spese, le proprie vacanze, l'acquisto di un divano o di un'automobile nuova, si continua a spendere come se i soldi fossero gli stessi. A fronte di questo però bisogna anche dire che Roma ha necessità di avere fondi aggiuntivi rispetto ad altre città, perché Roma ha il Vaticano, in questo momento abbiamo la fortuna di avere un Papa straordinario come Papa Francesco che attira centinaia di migliaia di turisti. Durante la settimana del 27 aprile per la santificazione di due papi ci aspettiamo 5 milioni di presenze a Roma. Quale città italiana deve sopportare in due o tre giorni 5 milioni di persone che arrivano? Pensiamo alla massa dei rifiuti, all'ordine pubblico, alla viabilità. Tutti questi sono costi che la capitale d'Italia orgogliosamente deve sostenere, ma non sono costi di Roma in quanto città, sono costi di Roma in quanto capitale di un paese. Senta, un'altra cosa ancora, lei va in bici anche d'inverno, perché lei è il sindaco della bicicletta, no? È sempre fotografato. Sono andato al Vaticano in bicicletta a salutare adesso il Papa, che ha fatto un'omelia quasi tutta incentrata su Roma, sì. E sulla importanza di mantenere una città nel modo più funzionante e accogliente possibile, mi sono trasferito in bicicletta qui al Circo Massimo, dove si terrà questo grande concerto, e in questo momento ci sono già migliaia di persone. Naturalmente. Arrivando. Senta, però, perché aveva, cioè, cosa aveva di particolare la sua bicicletta, la prima bicicletta, che poi ha dovuto cambiare perché l'avevano accusato di non avere una bicicletta italiana? Lei aveva una bicicletta americana. Aveva una bicicletta americana perché in realtà avevo una bicicletta, e ce l'ho ancora, che vale pochi soldi, la pagai meno di 50 euro perché me ne rubarono in America, vicino al mio ospedale, una bellissima. Andai da un rigattiere che vendeva biciclette usate e presi quella che costava meno, e infatti non me l'hanno mai rubata e ce l'ho ancora adesso. Senta, ci eravamo sentiti ad agosto, lei aveva detto che una delle cose che voleva fare era far andare i vigili in bicicletta, per l'appunto, però c'era da superare un po' di ritosie. C'è una pattuglia di vigili che va in giro in bicicletta per Roma? Adesso ci sono circa una trentina di vigili che vanno in giro in bicicletta e sono molto apprezzati dai cittadini, dalla cittadinanza in generale, e riescono a svolgere un ottimo servizio di ordine pubblico e di contrasto all'abusività, all'abusivismo commerciale. Io spero che aumentino, perché è un bel segno anche di una polizia locale che si muove su mezzi ecologici. Senta, un'ultimissima cosa, poi la lasciamo. Lei è andato alle primarie del PD a votare per Renzi? Sì, l'8 dicembre. Ho votato per Matteo Renzi. Penso che Matteo abbia il carisma e soprattutto, lo dissi allora e lo ripeto adesso, ha la concretezza di chi ha fatto il sindaco, e quindi ogni giorno si è confrontato con i problemi di chi non ha una casa, di chi non ha un lavoro, di un asilo nido dove mancano i posti per tutte le persone che ne hanno necessità, con la pulizia delle strade, con il trasporto pubblico, insomma, con tutte quelle questioni che determinano la qualità della vita delle persone. Le piace il una politica vicina alla gente. Un approccio pragmatico. Ma si era parlato di un'alleanza tra Marino e Renzi. Esiste questa alleanza tra di voi? Sicuramente esiste un forte rispetto, un'amicizia, una stima reciproca, e io l'ho sostenuto con convinzione. Auguri al sindaco di Roma, Ignazio Marino, buona serata. Tanti auguri, buon anno a tutti coloro che ci ascoltano, davvero buon anno. Grazie, a presto, ci sentiremo più avanti, insomma, di vicende che riguardano Roma ce ne sarebbero da dire, però insomma non avevamo più tempo a disposizione, il sindaco deve andare ad altri appuntamenti. Allora, abbiamo parlato dell'isola di Budelli e abbiamo ricevuto la telefonata di Andrea Bocelli che vuole intervenire su questo. Buonasera. Buonasera a tutti. Intanto grazie per... Mi viene da ridere perché sì. Andrea Bocelli fa anche rima con sì, Budelli, è vero. Però non era questa la ragione. Come mai invece hai sentito... Innanzitutto mi consenta di fare auguri sinceri a tutta la famiglia di Radio 24. Grazie. A tutti gli ascoltatori che come me ogni tanto spesso... Sei un nostro ascoltatore, posso darti del tu perché sei un personaggio straordinario nelle case di tutti gli italiani. Sei un ascoltatore di Radio 24. Ho ascoltato di sfuggita l'intervento dell'avvocato sulla proposta, che parlava di questa proposta di questo magnate neozelandese, no, che si è rivolto ha rivolto la sua attenzione all'isola di Budelli, no? Sì. L'Italia è un paese straordinario. Io parlo anche un po' da patriota, ho girato tanto mondo, ma credo che un paese così bello così come il nostro non ci sia, no? E io credo sostanzialmente, colgo l'occasione di questo intervento dell'avvocato per dire che questo paese si può salvare soltanto grazie all'iniziativa privata. Io credo sempre, ho sempre creduto nella buona volontà dei singoli, dei cittadini. Quindi sono contento che ci sia stata questa proposta, credo che sia una cosa da guardare con favore, e ancora di più e ancora più favorevole sarei se questa proposta venisse da un magnate italiano. Questa è una bella sottolineatura. E allora perché questo non succede? Probabilmente non credo che manchi un italiano in grado di versare 3 milioni o quelli che sono per riportare quell'isola alla bellezza naturale che ha. Io credo che manchi piuttosto la fiducia dell'italiano nella possibilità di realizzare rapidamente e bene quello che intende realizzare, perché in Italia succedono cose strane, ci sono, probabilmente molti che mi ascoltano sapranno che ci sono iniziative di privati che fanno magari fanno un progetto, lo presentano in comune, gli viene accordato il permesso, poi magari cambia l'amministrazione e gli bloccano i lavori. Cioè, in Italia c'è una burocrazia che fa paura. Dici che forse il magnate neozelandese ha comprato l'isola perché non sa quello cui va incontro. Forse lui è così lontano, la Nuova Zelanda è uno dei paesi più lontani dal nostro. E non sa quello che l'aspetta, questo può darsi. Non sa quello che l'aspetta, perché in Italia purtroppo c'è un problema, ci sono due che producono e cinque che controllano che i suoi guadagni siano leciti, che è giusto fare in modo che proteggersi da coloro che fanno i furbi, dai furbetti del quartiere, eccetera. Io sono il primo, sarei sulle barricate su questa cosa qui, ma io credo che si debba ponderare questo controllo, perché se poi il controllo costa più dell'abuso eventuale, allora non conviene più a nessuno. E poi non si può vivere una vita intera in un clima di sospetti, bisogna avere un po' più di fiducia reciproca, almeno tra noi italiani, tra coloro che parlano la stessa lingua. Insomma, raccogliamo questo invito di Andrea Bocelli a non stigmatizzare, a non preoccuparsi per un investimento di un privato. Tante cose, da questo punto di vista mi associo, sono state fatte in passato cose meravigliose grazie all'investimento dei privati, palazzi, opere anche architettoniche. Ma non soltanto, e quindi non dobbiamo per forza... Ma non si parla soltanto, non vorrei parlare soltanto... Sì. Di investimenti, vorrei parlare anche soprattutto di idee, perché l'italiano è creativo, è persona geniale, no? Ovviamente non tutti, ma ci sono tanti italiani che si sono fatti valere nel mondo perché hanno portato in giro la cultura italiana, l'arte italiana, ma anche la creatività personale, perciò in Italia si vive ancora in un clima in cui c'è molta ideologia, pochi ideali e nessuna idea, invece dovrebbe essere il contrario, ci vogliono molte idee, pochi ideali e nessuna ideologia, perché le ideologie ormai abbiamo capito che hanno fallito ovunque, perciò questo è il mio umilissimo messaggio di fine anno, col quale veramente intendo fare tanti auguri a tutti. Grazie. La speranza che il 2014 sia un anno, l'anno della rinascita. Via. Grazie mille ad Andrea Bocelli, auguri anche a te naturalmente da tutti di Radio 24. Grazie anche per questa improvvisata. E in effetti l'invito non è male a qualche magnate italiano a farsi avanti e a credere nelle bellezze del nostro paese, a investire e a fare qualche cosa così come sta facendo questo signore neozelandese. 800 24 0024. Riprendiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Mario che ci chiama da Roma. Buonasera Mario. Caduta la linea con Mario? Ai, era bello perché poteva raccontarci anche, commentare a caldo le parole del sindaco di Roma, Ignazio Marino. Ce l'abbiamo? No. Allora, siamo in attesa che qualcosa succeda. Comunque, avete sentito, bella questa telefonata di Andrea Bocelli. Io posso riepilogare la storia per chi non l'avesse sentita alle 19:15, l'isola di Budelli, l'arcipelago della Maddalena, che è stata acquisita dopo il fallimento di un privato, da un altro privato, un neozelandese, un banchiere neozelandese che l'ha acquistata per poco, per 3 milioni di euro. Adesso però ci sono ancora alcuni giorni affinché lo Stato italiano possa esercitare il diritto di prelazione, così come previsto anche nel decreto mille proroghe, sono stati stanziati 3 milioni di euro, un'operazione che potrebbe riportare nelle mani pubbliche questa isola. Ma l'avvocato che abbiamo sentito, l'avvocato di Michael Hart, diceva sì, attenzione però, perché 3 milioni di euro li spendiamo per comprarla, ma altrettanti e forse di più ce ne vogliono per mantenerlo, questo paradiso terrestre. Cosa? Scusate, regia, mi parlate? C'è Andrea chi, scusate? Abbiamo un ascoltatore che si chiama Andrea. Ah, ecco, sì, abbiamo un ascoltatore, sì, però state tranquilli, stavo finendo un discorso. Quindi questa era la storia dell'isola di Budelli. Andrea Bocelli ci ha chiamato per dire non abbiate paura dei privati, anzi sarebbe bello che ci fossero dei privati italiani che investono nelle nostre cose. Benissimo, Andrea da Messina, buonasera. No, guardi che si sono confusi. Io ero qui per Squillo. Sì, ma lei ha chiamato perché voleva intervenire, Andrea, o no? Sì, sì, sì, sì. Vabbè, era per la faccenda che non trovavate giocatori di squille. Ah, lei ha giocato al gioco di Manuel Castro, sì, Squillo, sì, Bordello, sì, d'Oriente? Sì. Quella non ancora, abbiamo provato la versione base circa uno o due mesi dopo che è uscita, ci stiamo giocando tuttora. Qual è la versione base? Squillo Deluxe Edition? Esatto. L'abbiamo vista per la prima volta a Padova. Sì. Su YouTube abbiamo trovato il trailer dell'uscita. Poi quest'anno a Lucca Comics abbiamo visto che c'era anche abbastanza gente che ci giocava e in mano il caso che mi sembra firmasse le carte, se non sbaglio. E adesso tra un paio di giorni dovremo andare a prendere la versione Bordelli d'Oriente. Lei lo dice ridendo perché fa ridere oggettivamente questa cosa qua. Beh, è divertente il gioco? Sì, è divertente, diciamo che è più per un pubblico adulto. E continua a ridacchiare, è chiaro che c'è tutto un fondo un po' così, insomma, anche malizioso, eccetera, eccetera. Non c'è nulla di offensivo, sì. Lo domando anche a lei, Attilio, in questo gioco, secondo lei? Oddio! Andrea. Non proprio offensivo, divertente, come diciamo, ci fa un paio di risate con gli amici. Però mi scusi, mi tolga una curiosità, lei chiama da Messina o ha sbagliato anche il nome della città? Perché non ha un accento... Chiamo da Treviso. Ah, quindi era tutto sbagliato quello che mi hanno scritto dalla regia. Va bene, grazie, buona serata, auguri anche a lei. Buona serata anche a lei. Allora, abbiamo trovato già due che hanno giocato al gioco di Manuel Castro, Squillo Bordello d'Oriente. In realtà questo aveva giocato alla versione precedente, ma più o meno la questione è la stessa. Marco d'Alessandria, buonasera. Auguri altrettanto. Io non ho mai giocato a questo gioco, però insomma, visto che ne parlano tutti, provvederò a imparare a giocare. Auguri a tutti innanzitutto. Io sì. Chiamo per due cose. La prima è dire il fatto che sono assolutamente d'accordo sulla privatizzazione dell'isola di Budelli, in quanto un neozelandese amante della natura, per chi conosce la Nuova Zelanda, può sicuramente dare un impulso al turismo, all'ecoturismo in Italia. E l'isola di Budelli può essere assolutamente un primo esempio di questo. Marco, la devo interrompere purtroppo perché abbiamo una pausa. Resti con noi, la faccio terminare subito dopo. A tra un attimo. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ah, eccoci qua di nuovo. Allora, avevamo Marco da Alessandria che ci stava dicendo prima di tutto che esatto. È favorevole a questa privatizzazione o quantomeno insomma a questo magnate neozelandese. Un tentativo di privatizzazione. Sì. Che poi, ripeto, l'isola è già privata dal 1800, così come private sono le altre isole dell'arcipelago. Una addirittura, io non lo sapevo, c'ha a casa anche Roberto Benigni, tanto per dire. Esatto, io sono favorevole al progetto. Io quando c'è un progetto sono favorevole a quando una persona dalla Nuova Zelanda prova a venire a investire in Italia. Io credo che bisogna dargli la possibilità. La seconda cosa che volevo dire riguardava il decreto mille proroghe di Roma, sì, di cui parlava prima il sindaco Marino. Io sono di una città, Alessandria, che è la prima città in Italia che è fallita. Quando sento dire, giustamente da lei, che sono stati dati 100.000 euro al coro, a diversi tipi di cori, 200.000 euro, io voglio ricordare ai suoi ascoltatori che per ogni singolo cittadino di Alessandria ricevere, e per la città di Alessandria ricevere 100.000 euro, 200.000 euro, può dare la possibilità a decine e decine di persone di pagarsi mutui, di vivere e di sopravvivere, cosa che in questo momento le varie società gestite dal comune, il comune stesso, non ha la possibilità di fare. Per cui ricorderei, visto che il sindaco Marino, ma tanti politici ascoltano Radio 24, che una città come Alessandria ha bisogno di questi di aiuti e più sicuramente di cori e associazioni varie. Il problema è come si spendono i soldi, perché spesso queste voci di spesa finiscono appunto per... magari si dà anche lavoro a qualcuno, per l'amor del cielo, può darsi che l'orchestra dei virtuosi di Verona con questi soldi tenga a stipendio delle persone che quindi hanno un lavoro e l'orchestra del paese, insomma, voglio dire, può darsi che sia questo, però a volte si alimentano, si tengono in vita dei carrozzoni artificialmente. Forse ci vorrebbe una legge, che ne so, una legge sulla cultura, si decide di finanziare progetti culturali come il Teatro San Carlo, non un decreto mille proroghe, un salva Roma che non c'entra nulla, nel quale poi si infila dentro tutto. Grazie anche Marco, lei non è che ha un buon proponimento per l'anno prossimo, ce lo vuole lasciare a futura memoria? io ce l'ho al vostro, sulla vostra trasmissione. Se voi continuate a fare anche nel 2014 una trasmissione di questo tipo, che dà a tutte le persone la possibilità di parlare, sicuramente per tutti sarà un ottimo anno, che porterà a conoscenza tante cose che senza di voi sarebbe impossibile. Benissimo, questo lo prendiamo come un grande complimento. Grazie, auguri Marco. Andiamo a Davide che ci chiama da Torino. Buonasera. Sì, buonasera e buon anno a tutti. Auguri. Io volevo fare l'ennesimo intervento su Napolitano e dire che l'intervento di Napolitano non gliene può fregare di meno a nessuno, per un motivo chiaro. Cioè, questo paese ha perso credibilità politica e istituzionale. Quindi Napolitano non è niente di più che una meteora. Cioè, ha un interesse solo più giornalistico. Cioè, senta, ma lei ha un auricolare, ha un viva voce, che cos'ha? Perché la sentiamo male. No, Va bene, è una meteora Napolitano, dice lei. Vabbè, sono tanti punti di vista su questo. E comunque non è un obbligo seguire il discorso del capo dello Stato, cioè, intendiamoci chiaramente. Diversa è la presa di posizione, però, gli esponenti politici, onorevoli o rappresentanti delle istituzioni che invitassero, come hanno fatto per esempio alcuni Forza Italia della Lega, o anche il Movimento 5 Stelle, a boicottare il discorso, a non sentirlo. Qui poi si apre una, come ci ha ricordato un ascoltatore all'inizio, una questione se sia o no uno sgarbo istituzionale, per esempio. Io non credo, però è un'opinione, per l'amor del cielo. Arnaldo da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, guardi, no, ma io velocemente sulla questione di Budelli, che non conosco approfonditamente, sì? Però quello che so mi è bastato per continuare a credere nella mia idea su quello che sono un po', che siamo un po' noi italiani, sì. Nel senso che c'è questa forma di nazionalismo un pochino così all'acqua di rose, che quando si presenta un problema di questo genere o problemi simili che toccano quelli che sono valori in qualche modo nazionali, c'è una sorta di movimento appunto che viene dal basso, che chiede che questa nostra isola non venga venduta, piuttosto che una compagnia di bandiera non venga svenduta, piuttosto che altre cose, che poi dopo si risolve sempre in un nulla di fatto. Nel caso specifico l'isola di Budelli credo che finirebbe nelle mani di una fondazione, e ovviamente, come diceva lei, ci saranno dei vincoli a protezione. La verità è che sono convinto che il 90% degli italiani non sapesse neanche dove fosse. Chi lo sa probabilmente si è sbrigato andando lì in vacanza a prendersi un bel barattolo di sabbia rosa, però oltre questo gli italiani non ne farebbero niente, come è capitato in tantissimi altri contesti. Non abbiamo, credo, in qualche modo sviluppato la capacità di difendere il nostro territorio. La regione Sardegna soprattutto mi sembra che ultimamente abbia anche approvato, ossia per approvare, questo anche mi sfugge se sia già successo, una politica diversa dal punto di vista della possibilità di edificare lungo le coste, quindi non è che ci sia tutto questo amore e questo interessamento reale per quello che è, diciamo, l'aspetto paesaggistico e naturale. Vorrei dire, prima di inerpicare, insomma, di alzare le scudi contro lo straniero che viene a comprare l'isola di Budelli, dovremmo farci un esame di coscienza noi italiani e dire: siamo noi i primi che non riusciamo a valorizzare, come no? È vero, purtroppo è un po' vero quello che dice lei. È un po' sulla linea di quello anche che invitava Andrea Bocelli, che poi ci ha chiamato appunto per intervenire su questo. Arnaldo, anche lei ha qualche buon proposito per l'anno prossimo che ci vuole lasciare a futura memoria? Così. Ma, di fare meglio del 2013. Lei che... Lei è sempre quella di migliorare. Sì, lei cosa fa? Un lavoro? Sì. Io lavoro in pubblicità. Ecco, quindi insomma si augura quantomeno di continuare a fare quello che ha fatto quest'anno. Sta tranquillo, sta, come si fa a 7:30, sta. No, diciamo sì, che mi piacerebbe fare a livello qualitativo meglio di quello che ho fatto fino ad oggi, ma dipende da me, quindi... Va bene, bocca al lupo per questo, grazie. Io voglio ricordare alcuni dei buoni propositi che sono arrivati ieri. Per esempio c'è stato bello Giulio da Pistoia, che ha detto, e lui è un dipendente di una ditta di macchine di giardinaggio, nel tempo libero fa l'apicoltore, ha 30 arnie e ha espresso il buon proponimento di raddoppiare il numero delle api e delle arnie, e magari anche di farne un'attività economica, perché no. Poi abbiamo avuto Luca da Milano, fa il manager in un'azienda che produce nastri adesivi. La sua buona notizia del 2013 è che hanno rilevato un'azienda americana, e il buon proposito per l'anno prossimo è portare avanti questa azienda e tutti i suoi occupati. Insomma, cose così che poi durante l'anno viveremo a cercare e andremo a verificare se siete riusciti a portare avanti i buoni propositi, perché uno dei modi per farlo è proprio quello di impegnarsi con un amico e dire: guarda, io quest'anno voglio fare questo, guarda che poi ti vengo a beccare, smetto di fumare, ti vengo a cercare, e noi arriveremo a cercare per così aiutarvi anche in questo. Mario da Bologna questa volta, buonasera. Buonasera. Prego. Però sono da Roma. Ah, perché c'avevo anche un Mario da Bologna, adesso abbiamo un Mario, avevo tre Mario. Uno da, guardi, avevo tre Mario, uno da Salerno, uno da Bologna e uno da Roma, così facciamo un casino assoluto. Allora, adesso abbiamo Mario da Roma. Sì. Buonasera. No, dunque, io dicevo, buone cose che ho trovato nel 2013, secondo me, cioè il Movimento 5 Stelle, l'affermazione del Movimento 5 Stelle, perché per la prima volta in Italia sì. Abbiamo un'opposizione vera, pura, che non può arrivare a compromessi perché ha magari altri interessi, altre cose. E questo è importante, perché sa rigare dritti gli altri. Per lei, insomma, la notizia dell'anno è questa, cioè l'ingresso in Parlamento del Movimento 5 Stelle e di tutti gli annessi e connessi, no, quello che ha voluto dire. Sì, vabbè, insomma, di un'opposizione. No, perché non è che tu puoi dargli l'aiuto, mi devi dare l'aiuto al Comune di Roma o alla regione tot dove c'è l'altro partito. Ti ricorda Peppone e Don Camillo quando discutevano? Sì. Tot case ai tuoi poveri, tot case ai miei poveri. E qui non esiste, devi agire secondo le leggi e basta, mi fa opposizione. Va bene, grazie Mario, auguri anche a lei. Adesso andiamo coi titoli della 7, sentiamo. Tra mezz'ora sarà in onda l'ottavo discorso di fine anno di Giorgio Napolitano, preceduto come non mai da polemiche, veleni e indiscrezioni. Forza Italia e 5 Stelle pronti a respingere diktat su riforme durata del governo Letta. Le ultime voci anticipano. Il capo dello Stato parlerà del disagio sociale e delle emergenze del Paese. Cercherà di dare speranza ai cittadini, a partire dalla necessità di fare riforme senza le quali il capo dello Stato potrebbe dimettersi. Per Enrico Letta il Capodanno sarà una parentesi di pochi giorni. Il Premier a gennaio vuole chiudere il patto di coalizione con Alfagnani e Montiani. Il Premier punta a scansare le pressioni per un voto europeo accorpato col voto anticipato, approdare al semestre dell'Unione Europea italiano con un accordo sulla legge elettorale e ottenere tempo per rilanciare l'occupazione. Grillo attacca sul blog con un'eretica metafora: sarà l'ultimo cenone per una classe politica condannata a morte. Da mezzanotte inizia un anno decisivo per il futuro dell'Europa, secondo tutte le stime e con un po' di ottimismo. Il 2014 sarà il tempo della ripresa dopo 4 anni di recessione, sarà anche l'anno dei semestri di presidenza greco e italiano, 2 cenerentole vertici continentali, e da domani sarà anche l'anno dell'ingresso della Lettonia nel sistema euro. Ma sarà davvero tempo della ripresa dopo 4 anni di crisi? Le previsioni immediate non sono tuttavia rosee per i bilanci delle famiglie italiane. Nel 2014 sono previsti aumenti di tutte le tariffe per 1.300 euro circa a nucleo e a gennaio si rischia subito l'ingorgo fiscale su IRPEF, IRAP e la tassazione sulla casa. Vigilia di Capodanno con tensione a Napoli, esplode una busta recapitata nell'ufficio del prefetto, ferita un'impiegata che lavorava in segreteria e che ha aperto il plico. La donna ha ustioni alla mano e al volto, nel pacco c'era anche un biglietto. Una frase allude alla crisi economica che uccide i cittadini, da cui parte l'inchiesta avviata dalla procura che esclude piste di criminalità, forse un gesto isolato. Michael Schumacher è ancora in coma, l'ex campione di Formula 1 nuovamente operato al cervello per il gravissimo trauma cranico avuto nella caduta sui campi da sci in Alta Savoia. Cauti medici dell'ospedale di Grenoble, ci sono lievissimi miglioramenti ma non è ancora fuori pericolo. La portavoce del campione smentisce che Schumi andasse troppo veloce e stesse sciando in una zona proibita. E allora riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Abbiamo Paolo che ci chiama da Bologna. Buonasera Paolo. Sì, io sono molto contento di parlare in una radio che dovrebbe e parla di economia, perché la nostra è una materia un po' ostica, è fatta di numeri e la gente preferisce parlare di calcio e cose del genere. Lei dice la nostra perché lei è un economista? Sì, abbastanza. Abbastanza, nel tempo perso, così come hobby, no? Sto scherzando. Lei Abbastanza sì. Perché in un popolo dove si spaccia un professore di diritto che poi mi sono messo a fare l'economista, sto parlando di pro, cioè I miei economisti si chiamano Stiglitz, Ruskin, ho studiato quelli, non ho studiato quelli che dicono di fare una buca per riempirla, che sono Keynes, comunque fa niente, mi occupo di economia a tempo perso, viviamo di battute. Io volevo solo dire sì, un piccolo intervento sul discorso di Marino, che è sindaco di Roma, che è la nostra capitale, però se lui è stato in America dove ha comprato la biciclettina lì da pochi euro che gliel'hanno contestata, perché noi guardiamo lo spillo ma non capiamo il trave, là in America funziona una cosa che si chiama federalismo, quindi se nel Texas sono poveri perché pare che sia lo stato più povero, non è che vanno a prendere i soldi dove c'è la Microsoft, che è lo stato più ricco. Quindi cosa vuol dire che Roma va finanziata perché ci vanno i turisti? Non è che i turisti poi rimandano i soldi a Trento, a Bolzano o a Salerno. Questo di economia non capisce un tubo. Sarà un ottimo medico, ma l'economia è fatta di numeri. Una volta in una lezione di economia uno cominciò a tracciare sopra la Fiat, poi di fianco c'era la Pirelli, poi c'era le autostrade, poi fece un discorso di 2 ore, perché come lei sa le lezioni universitarie durano 2 ore, per dire che tutti lavoravano nei loro vari paeselli tramite la Fiat. Io venni a casa, dissi, mio padre aveva la terza elementare e mi diceva che l'Italia si basava sulla Fiat. Questo il signor Marino non l'ha capito, cioè se il reddito viene fatto da lì, che lui lo prende coi soldini delle fabbriche che sono al nord, lui spende dei soldi male. Volevo solo dirglielo, sì, perché Marino, con il discorso che ha fatto, per me fa rima con cretino. No, devo dire che poi non c'era molto tempo, come avrà sentito, Marino aveva pochi minuti tra un impegno e l'altro, quindi sarebbe stato, anch'io ho pensato quella cosa che dice lei, però vede, perché non ha senso giustificare i soldi con Roma dicendo che Roma c'è il Vaticano e vanno i turisti, perché i turisti avranno un costo ma sono anche un guadagno, e come dice giustamente lei il guadagno poi rimane a Roma. No, bisogna finanziare Roma, come siccome abbiamo deciso, se lo decidiamo politicamente in maniera trasparente, di finanziare altre cose, altri fallimenti che ci sono, perché è una città, perché non possiamo lasciare la capitale in ginocchio. Però questo è un sistema che alla lunga si autoalimenta e non porta da nessuna parte. Ma così come abbiamo finanziato con la cassa integrazione della Fiat o il comune di Catania piuttosto che quello di Parma, sono scelte, però sa, poi ognuno si giustifica dicendo che dà lavoro, come per esempio la Fiat o il sindaco di Roma dicendo che porta turisti, però è una cosa un po' puerile. Sono d'accordo con lei. Paolo, voleva dire anche qualcos'altro o ci salutiamo qua? Lei non sa che favore mi fa dicendo che è d'accordo. Se parliamo, visto che c'è il Vaticano, se posso le dico 3 secondi di una cosa di un mio amico che è un ingegnere che abita praticamente, quando fa 2 passi va fuori dal Vaticano. Sa cosa mi ha detto? Sì. Che il Vaticano ha 4 lati, no? Cioè praticamente 2 confinano, che è lo Stato del Vaticano, e 2 sono nella Repubblica Italiana. Nei 2 della Repubblica Italiana c'è l'accattonaggio, insomma ci sono questi extra, povera gente, io vorrei aiutarli a casa loro, che fanno accattonaggio. Nei lati del Vaticano non è consentito. Allora chi mi viene a dire apprendeteli perché sono fratelli, però tirasse fuori un soldino, ha capito? Perché poi ce li sbolognano a noi, che ci violentano le donne e ci ammazzano le mamme, e questo non mi va bene. Va bene Paolo, fermiamoci qua, mi era piaciuto di più il Paolo di prima, comunque va bene lo stesso. Grazie, buona serata, auguri anche a lei, 800 24 00 24, io aspetto ancora i vostri buoni propositi per l'anno prossimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, sentiamo anche Roberto da Pavia, buonasera. Buonasera. Roberto, lei ce l'ha un buon proposito, così ci dia un'iniezione di positività per l'anno prossimo. Ma sicuramente l'anno prossimo andrà meglio di quest'anno, perché peggio di così in Italia penso che non possa andare. E questa è già una sicurezza. Poi? Ok, poi purtroppo non ho più niente da dire, in quanto io sono in totale disaccordo con il dottor Marino. Sì? In quanto d'accordo che lui è medico, ma penso che un minimo di finanza ce l'abbia come base, perché se lui afferma che 5 milioni di turisti creano più costi sia per quanto riguarda il terzo urbano, come ha affermato lui, che per quanto riguarda i vigili urbani, ma non ha calcolato quanto 5 turisti portano in termini di utile alla Ceglia Rosa. È un intervento, è un intervento fotocopia rispetto a quello di Paolo da Bologna poco fa, e anch'io mi sono accodato dicendo che sono d'accordo. E, ripeto, non c'è stato tempo di farglielo presente a Marino perché andava di fretta, però l'abbiamo già detto. Roberto, voleva aggiungere qualcos'altro? Oppure che un sindaco di città come Roma, sì, possa permettersi, pur di fretta, di fare certe affermazioni. Va bene, va bene. Grazie. Adesso vi vogliamo raccontare, come ogni sera a quest'ora, però, una bella storia di quelle fatte da italiani che non si arrendono, ma che anzi rilanciano e realizzano delle belle cose. Per esempio, Ferruccio Mazzariol, titolare della libreria e anche della casa editrice Santi 40 di Treviso, che adesso ci racconterà la sua storia. Buonasera, Ferruccio. Buonasera. Senta, so che lei sta per aprire o ha appena aperto una libreria. Lei però ha già una casa editrice, Santi 40. Che tipo di libri intanto lei pubblica? Dunque, l'editrice entra nel suo 25esimo anno e io stampo due tipi di libri, privilegiando particolarmente la narrativa, ma con incursioni anche nella saggistica e nella storia, e con attenzione anche alle fiabe e leggende del Nord-Est. E dunque, in narrativa io ho seguito due filoni, uno per così dire abissale, cioè perché per me la narrativa è uno scandaglio profondo dell'anima umana, è scruta i capillari della coscienza, ma insieme... Che belle espressioni, scruta i capillari della coscienza, ma questa se l'era scritta, oppure è una cosa che ripete spesso? Sa che non la sento tanto bene. Noi la sentiamo bene, no? Dicevo, scrutare i capillari della coscienza è una bella espressione, le chiedevo se è un'espressione che lei si era preparato di dire o le è venuta così. Non importa. È il che no... Non so se sia meglio usare il telefonino, perché non capisco tanto. Mazzariol, non ci sente. Guardi, prova a farle una domanda. Se non sente neanche questa, ci sentiamo dopo e ristabiliamo il contatto. Allora, lei sta per aprire una libreria a Treviso? No, l'ho già aperta. Ecco. Già aperta il 14 dicembre. Sì, però non è una libreria da intendersi nel senso generalista, vuol dare visibilità alla nostra, diremo, piccola editrice, sì, che comunque credo goda di grande stima, anche perché è un'editrice che non pubblica a pagamento, che paga molti diritti d'autore e che si è sorretta soprattutto sul mio lavoro di commercializzatore, di cramar, per dirla alla friulana, un merciaio ambulante, sì, che con la cassetta sulle spalle, in macchina in questo caso, ha aperto nel Nord-Est direttamente più di 1000 punti vendita, altrimenti direi che è veleitario un piccolo editore che pensa. Mi scusi lei quanti negozi oltre a quello di Treviso non ho capito, lei ha degli altri punti vendita? Sì, ma sono nel senso che io non sono punti vendita miei. Ah, ecco. Sono punti vendita dove io porto i miei libri. Va bene, certo, è un circuito commerciale che ospita i suoi libri, non mi sente, Mazzariol. Nessuna editrice, sì, che ha tanti punti, dico punti vendita nel senso non che siano di nostra proprietà, dove i nostri libri vengono accolti. Mazzariol, le volevo fare una domanda. Anche in agriturismo. Non si riesce. Mazzariol, mi sente? Le posso fare una domanda? Mi sente? Sì, sì, sì. Allora, la domanda è questa. Lei sta andando un po' in controtendenza, perché insomma sono più le librerie che chiudono di quelle che aprono. Lei però ha letto una sua intervista, lei dice che è convinto che il libro cartaceo, il libro di carta, come l'abbiamo conosciuto sin qua, non finirà, non è in estinzione, come dicono alcuni che fanno previsioni sul futuro. Lei è ottimista? Io non sono contro il digitale, però... Mi dà l'impressione, io sono per il libro creatura, ecco, io sono per il libro, dico con una battuta, che deve avere il profumo e il corpo di una bella signora, ecco, questo, anzi il digitale credo porterà all'estremo il consumismo della melassa libraia che invade le librerie, ecco. Poi le dirò che la causa della crisi delle librerie non dipende tanto dalla crisi generale, dipende dalla legge che è stata fatta sugli sconti, che è una legge finta. Troppi sconti fanno male al mercato, secondo lei? Prego? Troppi sconti fanno male al mercato dei libri, però fanno bene, sì, ai consumatori. Come si fa? Ci sono due paesi, no, di cui non si parla mai, sì. Cioè magari io poi ho una figlia Francesca a Monaco di Baviera sposata, e quindi conosco bene la situazione tedesca, ma poi c'è anche un libro dove c'è tutta la legislazione europea dei vari paesi. Ad esempio la Germania, lo sconto librario è totalmente proibito, questo non lo dico perché l'ho sentito in osteria, è totalmente proibito perché è una difesa del prezzo onesto di copertina. Che senso ha pubblicare un libro, sì, e mettere sconto al 25%? Questo è un sistema che favorisce... Però mi dica una cosa, Mazzariol, perché se lei ha aperto, come ha fatto da poco, una libreria appunto a Treviso, che è la sua città, vuol dire che lei comunque ci crede in questo mercato dei libri, almeno per quanto riguarda i titoli che stampate voi. Lei è ottimista per il futuro? Sicuramente, perché le dirò che Treviso praticamente non ha una libreria di tipo legata a una persona, ecco, per esempio, ma io ho una piccola libreria che è come un localino che vuole essere un'oasi che trasmette un po' di gioia, un po' di bellezza, un po' di grazia, come è un po' stata la nostra Treviso, una città graziosissima, molto bella, straordinariamente bella, nonostante sia stata bombardata terribilmente il Venerdì Santo del 44, era il giorno 7 aprile. È una città patrizia, alla mano. Io non sono di quelli, non amo quelli che dicono male della propria città, che poi io sono nato sulla sinistra del Piave e sono un piavot, sarei un rustico rispetto alla città dei Trevisi, della diplomazia, della parlata, delle a cascatella, delle risorgive piene d'acqua. Questa città è una città bellissima, che vuol dire che nel suo DNA ha avuto degli antenati straordinari. E quindi lei crede in tutto questo, nella sua città, ma anche nella possibilità che questa libreria, sì, questo punto vendita, Treviso possa avere un futuro. Mazzariol, noi ci salutiamo qua, grazie, la ringrazio perché abbiamo il capo dello Stato napoletano che incombe, sì, tra poco parlerà, e quindi grazie, auguri, in bocca al lupo per la sua, sì, attività. Grazie, buonasera, buon anno. E comunque il senso era questa iniezione, avete sentito, no? Crede nella possibilità, in questa piccola bottega, in questo piccolo negozio, di dare così un tocco di bellezza, di cultura, di credibilità alla sua città. E se ci crede lui, probabilmente ci crederanno anche le persone che frequenteranno questa libreria di Treviso. Adesso riprendiamo con gli ascoltatori, sempre con un occhio puntato su Rai 1, dove appena cominciò a parlare napoletano, tac. Simone da Milano, buonasera. Sì, ciao, mi senti? Benissimo, forte e chiaro. Buonasera carissimo, complimenti per il programma. Allora, io avrei voluto parlare di Squillo, però posso fare un piccolo appunto al signore che ha parlato appena adesso? Sì. Ecco, niente, io volevo dire che capisco che c'è tanta gente che ci deve mangiare con negozi e comunque c'è un commercio già ben stabile, però non vedo perché schierarsi contro gli ebook prioristicamente. No, ma non si è schierato contro gli ebook, Simone, romantico. Ha fatto no, sono due mercati diversi, gli ebook che sicuramente hanno un grande futuro, i libri che, certo, hanno un grande passato, ma probabilmente non ne faremo a meno nel presente, è una questione di gusti, ognuno poi fa quello che gli pare. Il punto su cui era più critico Mazzarella è quello degli sconti. Lui dice attenzione perché in altri paesi, ha citato la Germania, io non lo so, però mi affido a quello che dice, e comunque pone una questione: scontare troppo i libri vuol dire, visto che i margini di guadagno non sono ampi, vuol dire buttare giù tutto, affossare tutta una catena, tutta una filiera, autori, editori, librai, certo. Non è che c'è gente che ci deve mangiare, è che è un'industria anche quella. Lo capisco, sì. Però il problema è che molte volte con il fatto che tante aziende ci devono mangiare sopra, alcuni autori non sono in grado di esprimersi. Un problema del genere con gli ebook potrebbe anche risolversi. Questo è vero, gli ebook sono anche dal punto di vista commerciale, sicuramente i costi sono più bassi, questo vale per tutto il digitale, per tutta l'editoria digitale, e quindi è una possibilità in più sicuramente. Simone, però volevi intervenire anche sulla questione del gioco di Manuel Castro? Sì, certo, guarda, tra l'altro mi hanno... C'è la polizia che mi suona dietro al lato della strada, mi sa che mi devo spostare. Volevo dire che, mi spiace, devo richiamare un'altra volta. Grazie lo stesso. No, sul più bello così, Simone, voleva dirci che probabilmente che ci ha giocato al gioco, come si chiama, Squillo, Bordello d'Oriente. Sono ancora in onda? Sì, sei ancora in onda. Sì, è passata la polizia? Rapidamente, sì. No, è ancora qua dietro. Rapidamente, volevo dire che... mi stanno suonando, non posso. Arrivederci. Simone, questo è fantastico. Adesso tra un po' interverrà di nuovo dicendo che vuol dire qualcosa, però poi non può per via della polizia. Va bene, andiamo in un posto più tranquillo, da Fulvio, che ci chiama da Monza. Buonasera. Buonasera, anzi da Monza, ma in realtà sono di Roma. Sono qui, insomma, le trascorre di cavolo. Innanzitutto volevo fare le auguri a tutti, a voi, sì. Al 24 ore, e a Dario spettatori. E poi volevo complimentarmi con il magnate neozelandese che ha deciso di investire. Diciamo che in Italia siamo veramente messi male, consideriamo quello che è successo a Roma, dove per anni e anni, e forse continueranno a pagare milioni di euro per affittare dei palazzi per i politici, quando poi avrebbero potuto tranquillamente costruirle a casa nuova, dando del lavoro a gente, insomma. E poi spezzare una lancia anche a favore del Movimento 5 Stelle, che è l'unico partito, io sono un sostenitore del Movimento 5 Stelle perché penso sia l'unico partito serio, hanno rinunciato fino adesso a 42 milioni di euro al finanziamento pubblico ai partiti, poi si sono autofinanziati per la campagna elettorale e quello che è rimasto lo hanno utilizzato per costruire una scuola. L'hanno devoluto per costruire una scuola in allora Fulvio, la saluto perché sta per iniziare a parlare Giorgio Napolitano, grazie. Rivolgendo un particolare pensiero a quanti vivono con ansia queste ore per le recenti scosse di terremoto, giunga il mio affettuoso augurio. L'anno che sta per terminare è stato tra i più pesanti e inquieti che l'Italia ha vissuto da quando è diventata Repubblica. Tra i più pesanti sul piano sociale, tra i più inquieti sul piano politico e istituzionale. L'anno che sta per iniziare può e deve essere diverso e migliore per il Paese e specialmente per quanti hanno sofferto duramente le conseguenze della crisi. Una crisi dalla quale in Europa si comincia a uscire. E più decisamente si potrà uscire se si porterà fino in fondo un'azione comune per il rilancio della crescita economica e dell'occupazione. Questa sera non tornerò su analisi e considerazioni generali che ho prospettato più volte. Non passerò dunque in rassegna i tanti problemi da affrontare. Cercherò invece di mettere innanzitutto in evidenza le preoccupazioni e i sentimenti che ho colto in alcune delle molte lettere indirizzatemi ancora di recente da persone che, parlando dei loro casi, hanno gettato luce su realtà diffuse oggi nella nostra società. Vincenzo, che mi scrive da un piccolo centro industriale delle Marche, ha ormai 61 anni e sa bene quanto sia difficile per lui recuperare una posizione lavorativa. Sono stato, mi dice, imprenditore fino al 2001, un calzaturificio con 15 dipendenti, ed in seguito alla sua chiusura sono stato impiegato presso altri calzaturifici. Attualmente sono disoccupato. Di sacrifici ne ho fatti molti e sono disposto a farne ancora. Questo non spaventa né i nostri figli, scrive, ma aggiunge: non può essere che solo noi semplici cittadini siamo chiamati a fare sacrifici, facciamoli insieme che comincino anche i politici. Mi sembra un proposito e un appello giusto, cui peraltro cercano di corrispondere le misure recenti all'esame del Parlamento in materia di province e di finanziamento pubblico dei partiti. Daniela, dalla provincia di Como, mi racconta il caso del suo fidanzato che a 44 anni, iscrittosi allo sportello lavoro del paese, attende invano di essere chiamato e resta, per riprendere le sue drammatiche parole, giovane per la pensione, troppo vecchio per lavorare. Una forte denuncia della condizione degli esodati mi è stata indirizzata da Marco, della provincia di Torino, che mi chiede di citare la gravità di tale questione, in quanto comune a tanti, nel messaggio di questa sera, e lo faccio. Mi hanno scritto in questo periodo persone che alla denuncia delle loro difficoltà uniscono l'espressione di un naturale senso della nazione e delle istituzioni. Lo si coglie chiaramente, ad esempio, nel travaglio di un padre di famiglia, titolare di un modesto stipendio pubblico, che mi scrive: questo mese devo decidere se pagare alcune tasse o comprare il minimo per la sopravvivenza dei miei due figli. E mi dice di vergognarsi per questo angoscioso dilemma, pensando al patto sottoscritto con le istituzioni, al giuramento, sono sue parole, di pagare le tasse sempre e comunque. Ricevo anche qualche lettera più lunga che narra una storia personale, legandola alla storia e alla condizione attuale del paese. Così Franco da Vigevano, agricoltore, che rievoca lo spirito di fratellanza degli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale e fa appello perché quello spirito rinasca come condizione per rendere la nazione stabile economicamente e socialmente. E infine avrei da citare molte lettere di giovani, polemiche verso le incapacità della politica, ma tutt'altro che rassegnate e prive di speranza e volontà. Serena, da un piccolo centro del Catanese, mi scrive: noi giovani non siamo solo il futuro, ma siamo soprattutto il presente, per il lavoro che manca, per la condizione delle famiglie che scivolano nella povertà. Voi adulti e politici, scrive, parlate spesso dei giovani e troppo poco con i giovani, che nonostante tutto sono pronti a rimboccarsi le maniche e a fare ogni sforzo per poter dire da adulti sono fiero del mio paese, della mia nazione. Veronica da Empoli, 28enne, laureatasi a prezzo di grandi sacrifici, da 3 anni alla ricerca, finora vana, di un lavoro, sente che la crisi attuale è crisi di quella fiducia nei giovani, di quella capacità di suscitare entusiasmo nei giovani, senza di cui, sono sue parole, una nazione perde il futuro. E conclude: io credo ancora nell'Italia, ma l'Italia crede ancora in me? Ecco, vedete, aggiungo io, una domanda che ci deve scuotere. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, anche esprimendo apprezzamento e fiducia e talvolta critiche schiette per il mio impegno di presidente. Non potendo sempre rispondere personalmente, traggo da ogni racconto, denuncia o appello che mi giunge stimoli per prospettare nei limiti dei miei poteri e delle mie possibilità i forti cambiamenti necessari nella politica, nelle istituzioni, nei rapporti sociali. Ne traggo anche la convinzione che ci siano grandi riserve di volontà costruttiva e di coraggio su cui contare. Il coraggio degli italiani è in questo momento l'ingrediente decisivo per far scattare nel 2014 quella ripresa di cui l'Italia ha così acuto bisogno. Coraggio di rialzarsi, di risalire la china, coraggio di praticare la solidarietà, come ora si pratica in tante occasioni attraverso una fitta rete di associazioni e iniziative benefiche e attraverso gesti, azioni eloquenti ed efficaci dinanzi alle emergenze da parte di operatori pubblici, di volontari, di comuni cittadini, basti citare l'esempio di Lampedusa. Coraggio, infine, di intraprendere e innovare, quello che mostrano, creando imprese, più donne, più giovani, più immigrati che nel passato. Alla crisi di questi anni ha reagito col coraggio dell'innovazione una parte importante dell'industria italiana, indebolitasi già molto prima in produzioni di base certamente rilevanti, ma affermatasi in nuove specializzazioni. Quella parte dell'industria ha così guadagnato in competitività nelle esportazioni ed esibito eccellenze tecnologiche, come dimostrano non pochi primati della nostra manifattura nelle classifiche mondiali. In questo nucleo forte, vincente, dell'industria e dei servizi troviamo esempi e impulsi per un più generale rinnovamento e sviluppo della nostra economia e per un deciso ritorno di fiducia nelle potenzialità del Paese. Guardiamo dunque al presente, al malessere diffuso, alla fatica sociale, come si è detto, cui dare risposte qui ed ora nell'anno 2014, ma lavoriamo in pari tempo a un disegno di sviluppo nazionale e di giustizia sociale da proiettare in un orizzonte più lungo. E a questa prospettiva che sono interessati innanzitutto i giovani, quelli che con grandi sforzi già hanno trovato il modo di dare il meglio di sé, ad esempio, ne parlo spesso, nella ricerca scientifica, e gli altri, i più, che ancora non riescono a trovare sbocchi gratificanti di occupazione e di partecipazione a un futuro comune da costruire per l'Italia. Si richiedono però lungimiranti e continuative scelte di governo, con le quali debbono misurarsi le forze politiche e sociali e le assemblee rappresentative. Prima di tutto il Parlamento, oggi più che mai bisognoso di nuove regole per riguadagnare il suo ruolo centrale. Non tocca a me esprimere giudizi di merito ora sulle scelte compiute dall'attuale governo fino alle più recenti per recuperare e bene impiegare essenzialmente nel Mezzogiorno miliardi di euro attribuiti dall'Unione Europea attraverso fonti che rischiamo di perdere. Rispetto a tali scelte e alla loro effettiva attuazione e ancor più a quelle che il governo annuncia sotto forma di un patto di programma che impegni la maggioranza per il 2014, il solo giudice è il Parlamento. E grande a questo proposito è lo spazio anche per le forze di opposizione che vogliano criticare in modo circostanziato e avanzare controproposte sostenibili. La sola preoccupazione che ho il dovere di esprimere è per il diffondersi di tendenze distruttive nel confronto politico e nel dibattito pubblico, tendenze all'esasperazione anche con espressioni violente di ogni polemica e divergenza, fino a innescare un tutti contro tutti che lacera il tessuto istituzionale e la coesione sociale. Penso ai pericoli nel corso del 2013 di un vuoto di governo e di un vuoto al vertice dello Stato, pericoli che non erano immaginari e che potevano tradursi in un fatale colpo per la credibilità dell'Italia e per la tenuta non solo della sua finanza pubblica, ma del suo sistema democratico. Quei pericoli sono stati scongiurati nel 2013 sul piano finanziario, con risultati come il risparmio di oltre 5 miliardi sugli interessi da pagare sul nostro debito pubblico. Sarebbe dissennato disperdere i benefici del difficile cammino compiuto. I rischi già corsi si potrebbero riprodurre nel prossimo futuro ed è interesse comune scongiurarli ancora. La nostra democrazia, che ha rischiato e può rischiare una destabilizzazione, va rinnovata e rafforzata attraverso riforme obbligate e urgenti. Entrambe le Camere approvarono nel maggio scorso a grande maggioranza una mozione che indicava temi e grandi linee di revisione costituzionale. Compreso quel che è da riformare, come proprio nei giorni scorsi è apparso chiaro in Parlamento, nella formazione delle leggi, ponendo termine a un abnorme ricorso in atto da non pochi anni alla decretazione d'urgenza e a votazioni di fiducia su maxi emendamenti, ma garantendo ciò con modifiche istituzionali e regolamentari, confronti lineari e tempi certi in Parlamento per l'approvazione di leggi di attuazione del programma di governo. E anche se molto è cambiato negli ultimi mesi nel campo politico e le procedure da seguire per le riforme costituzionali sono rimaste quelle originarie, queste riforme restano una priorità indicata al Parlamento già dai miei predecessori e riconosciuta via via da un arco di forze politiche rappresentate in Parlamento ben più ampio di quelle che sostengono l'attuale governo. E mi riferisco a riforme che soprattutto sono i cittadini stessi a sollecitare. Alle forze parlamentari tocca in pari tempo dare soluzione sulla base di un'intesa che anch'io auspico possa essere la più larga al problema della riforma elettorale, divenuta ancor più indispensabile e urgente dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Dobbiamo tutti augurarci che il 2014 ci veda raggiungere risultati apprezzabili in queste direzioni. Non posso a questo punto fare a meno di sottolineare come nel nuovo anno l'Italia sia anche chiamata a fare la sua parte nella comunità internazionale, dando in primo luogo il suo contributo all'affermazione della pace dove ancora dominano conflitti e persecuzioni. E a questo riguardo voglio ricordare ancora una volta l'impegno dei nostri militari nelle missioni internazionali, tra le quali quella contro la nuova pirateria, cui parteciparono i nostri marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ai quali perciò confermo la nostra vicinanza. E rivolgo un commosso pensiero a tutti i nostri caduti. A una comune responsabilità per le sorti del mondo ci ha richiamato nei suoi messaggi natalizi e per la giornata mondiale della pace Papa Francesco con la forza della sua ispirazione che fa leva sul principio di fraternità e che sollecita anche scelte coerenti di accoglienza e solidarietà verso quanti fuggono da guerre, oppressioni e carestie cercando asilo in Italia e in Europa. Queste supreme istanze di pace e di solidarietà mi spingono anche a un appello perché non si dimentichi quello che l'Europa, l'integrazione europea ci ha dato da decenni, innanzitutto proprio la pace e la solidarietà. Anche in funzione di tale impegno molte cose certo debbono oggi cambiare nell'Unione Europea. In tal senso dovrà operare l'Italia, specie nel semestre di sua presidenza dell'Unione, senza che nessuno degli Stati membri si tiri però indietro e si rinchiuda in un guscio destinato peraltro ad essere travolto in un mondo radicalmente cambiato e divenuto davvero globale. Né si dimentichi nel fuoco di troppe polemiche sommarie che l'Europa unita ha significato un sempre più ampio riconoscimento di valori e di diritti che determinano la qualità civile delle nostre società. Valori come quelli, nella pratica spesso calpestati, della tutela dell'ambiente, basti citare il disastro della terra dei fuochi, del territorio, del paesaggio. Diritti umani, diritti fondamentali, compresi quelli che purtroppo sono negati oggi in Italia a migliaia di detenuti nelle carceri più sovraffollate e degradate. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ho voluto esprimervi la mia vicinanza a realtà sociali dolorose che molti di voi vivono in prima persona ed evocare valori e principi, necessità e speranze di cambiamento da coltivare tenacemente. L'ho fatto senza entrare nel merito di posizioni politiche e di soluzioni concrete su cui non tocca a me pronunciarmi. Come nei 7 anni conclusisi nell'aprile scorso, così negli 8 mesi successivi alla mia rielezione, ho assolto il mio mandato raccogliendo preoccupazioni e sentimenti diffusi tra gli italiani e sempre mirando a rappresentare e rafforzare l'unità nazionale, servendo la causa del prestigio internazionale dell'Italia, richiamando alla correttezza e all'equilibrio nei rapporti tra le istituzioni e tra i poteri dello Stato, nei rapporti anche tra politica e giustizia, tenendo ben ferma la priorità della lotta al crimine organizzato. Conosco i limiti dei miei poteri e delle mie possibilità anche nello sviluppare un'azione al pari di tutti i miei predecessori di persuasione morale. Nessuno può credere alla ridicola storia delle mie pretese di strapotere personale. Sono attento a considerare ogni critica o riserva obiettiva e rispettosa circa il mio operato, ma in assoluta tranquillità di coscienza dico che non mi lascerò condizionare da campagne calunniose, da ingiurie e minacce. Tutti sanno, anche se qualcuno finge di non ricordare, che il 20 aprile scorso, di fronte alla pressione esercitata su di me da diverse ed opposte forze politiche perché dessi la mia disponibilità a una rielezione a presidente, sentii di non potermi sottrarre a un'ulteriore assunzione di responsabilità verso la nazione in un momento di allarmante paralisi istituzionale. Null'altro che questo mi spinse a caricarmi di un simile peso, a superare le ragioni istituzionali e personali da me ripetutamente espresse, dando per naturale la vicina conclusione della mia esperienza al Quirinale. E sono oggi ancora qui dinanzi a voi, ribadendo quel che dissi poi al Parlamento e ai rappresentanti regionali che mi avevano eletto col 72% dei voti. Resterò presidente fino a quando la situazione del Paese e delle istituzioni me lo farà ritenere necessario e possibile e fino a quando le forze me lo consentiranno. Fino ad allora e non un giorno di più, e dunque di certo solo per un tempo non lungo. Confido così facendo nella comprensione e nel consenso che di molti di voi. Spero di poter vedere nel 2014 decisamente avviato un nuovo percorso di crescita, di lavoro e di giustizia per l'Italia e almeno iniziata un'incisiva riforma delle istituzioni repubblicane. Ho concluso. Buon anno alle vostre famiglie, dagli anziani ai bambini. Buon anno a chi serve la patria e la pace lontano dall'Italia. Buon anno a tutti quanti risiedono operosamente nel nostro paese. Guardiamo, lasciate che ve lo dica, con serenità e con coraggio al nuovo anno. Eccoci qua, cari ascoltatori, avete sentito assieme a noi l'intervento del Capo dello Stato, 20 minuti circa, una durata nella media, credo, degli ultimi discorsi del Presidente della Repubblica. La parte più importante è sicuramente la parte finale, nella quale Napolitano ha messo i paletti attorno al suo ruolo, un ruolo anomalo perché si tratta di un secondo mandato, non c'è mai stato nella storia della Repubblica, e lui ha detto: è ridicola la storia di mie pretese di strapotere, non mi lascerò condizionare da ingiurie e minacce da chi, come sapete, alcune forze politiche, il Movimento 5 Stelle, ma la storia del boicottaggio e il discorso di Napolitano ha toccato in queste ore anche Forza Italia, la Lega, e lui insomma ha messo un po' di paletti attorno a questo. Ha ricordato quando il 20 aprile è stato eletto sotto la pressione, ha detto, di forze politiche opposte, quindi non soltanto quella di maggioranza relativa, cioè il Partito Democratico, ma anche altre forze politiche. Allora l'accordo, ricordiamolo, fu con il PDL, ma anche con Scelta Civica e in parte la Lega, per essere rieletto, e quindi questi sono i paletti che ha piantato Napolitano. Ma sentiamo Stefano Folli, buonasera, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Stefano. Buonasera, ciao. ciao, come stai? Bene, grazie, auguri intanto, Stefano. Auguri anche a te, auguri a voi. Ti abbiamo strappato per qualche minuto al tuo cenone, ai tuoi festeggiamenti, però era doveroso essere qua a commentare. Allora, c'era un po' di attesa, soprattutto forse per questa parte qua del discorso, ma anche per altre cose che forse non c'erano relativamente a Berlusconi o alla Grazia o a cose di questo genere. A caldo, come ti è sembrato il discorso? Ma mi è sembrato molto innovativo per una parte, dove il Presidente si è rivolto proprio agli italiani, no? Citando le lettere, citando quasi stabilendo un dialogo individuale con gli italiani che soffrono la crisi, e elogiando, facendo trapelare nel suo discorso il coraggio degli italiani, la tenacia, la determinazione con cui tutti coloro che lavorano, che vivono questa crisi, si sforzano di superarla con comportamenti davvero dignitosi. Questa mi pare una parte molto innovativa per il tono usato. Poi c'è la parte, diciamo, più istituzionale, più politica, in cui il Presidente da un lato ha, diciamo, rivolto un nuovo appello per le riforme definite obbligate e urgenti, ha chiesto all'opposizione di cooperare, ma è stato anche molto duro nel rispondere alla campagna di ingiurie, alla campagna volta a condizionare le sue scelte, a delegittimare, direi, il Quirinale. E su questo è stato molto chiaro, e pur non facendo nomi e cognomi, ma insomma, sì, tutti hanno capito che cosa volesse dire. E poi ha fatto quell'accenno finale al fatto che lui intende restare per promuovere il rinnovamento, ma non intende restare un minuto di più del necessario. E questo significa, non è una minaccia di dimissione naturalmente, ma è anche un modo per far capire alle forze politiche che il Presidente, come garante delle istituzioni, resta al suo posto, anche però perché le forze politiche poi prendano la loro parte di responsabilità. Beh, insomma, lui ha detto, adesso guarda, ce l'ho qua sotto gli occhi, resterò al Colle finché necessario, non allungo fino ad allora, e non un giorno di più, Presidente, finché le situazioni del Paese e delle istituzioni me lo farà ritenere necessario e possibile, fino a quando le forze me lo consentiranno, fino ad allora non un giorno di più. Secondo te, rispetto a come è nata questo secondo mandato di Napolitano, questo è un accorciare o un mantenere l'impegno? Cioè, come lo giudichi proprio in termini anche di tempistica? Se ha voluto dare anche un messaggio? No, lui ha voluto ribadire che questo settennato non sarà un settennato, sarà molto più breve, però ha anche voluto far capire che non intende certo uscire dal Quirinale oppure semplicemente farsi condizionare da una campagna di delegittimazione. Lui vuole restare e vuole svolgere il suo ruolo, che è quello di essere garante di un equilibrio istituzionale, ma anche, diciamo, colui che stimola le forze politiche e le porta ad avviare un programma di riforme. Va bene, Stefano, noi ti ringraziamo. Grazie, abbiamo voglia di condividere con te questo momento. Auguri e a presto. Ci sentiremo sicuramente nel nuovo anno, perché Stefano Folli è una delle voci di Radio 24. Allora, adesso abbiamo ancora qualche secondo per chiudere, prima del giornale radio, insomma, prima di farci gli auguri definitivi per quanto riguarda noi in diretta questa sera, e diamo la voce e la linea ancora a qualche ascoltatore che ci porterà sicuramente su strade diverse, credo, da queste qua di quello che abbiamo appena sentito fino ad ora, cioè di Napolitano. Abbiamo Simone che ci chiama da Milano. Buonasera. Sì, ciao, ci riprovo, questa volta non c'era più la polizia. Sei quello di prima, inserito dalla polizia, che ci voleva raccontare la sua esperienza con il gioco Squillo Bordello d'Oriente. Esatto, allora guarda, ti faccio subito notare che questa è la seconda edizione. Il volo è pindarico, da Napolitano a questa cosa qua, proprio stiamo facendo una piroetta. Infatti stavo pensando di mettere giù perché mi sento un po' inadeguato. No, vabbè, ma riprendiamo da dove abbiamo interrotto prima. Del resto anche Napolitano ha citato storie di italiani, e questa è una storia anche questa. Vai, Simone. Ecco, come ti dicevo, Bordello d'Oriente è addirittura l'espansione, quindi è il secondo anno che è in circolo questo gioco. Per quanto riguarda la tua domanda, ovvero è offensivo, ti dirò di più, anzi è feroce, non solo offensivo, proprio perché il fulcro del gioco è sensibilizzare verso una situazione molto grave, ovvero quello dello sfruttamento della prostituzione. E il gioco tratta proprio di questo, ovvero tu sei un pappone e sei obbligato a fare cose davvero atroci alle ragazze e in generale per riuscire a creare un impero. Quindi l'obiettivo è proprio questo, insomma, questo sarcasmo che così feroce non se ne vedeva probabilmente però, dal tempo di Fantozzi. Ecco, ecco, diciamo. Però non c'è compiacimento, c'è consapevolezza giocando che si sta facendo un gioco di ruoli proprio per stigmatizzare quella cosa lì. Non può esserci compiacimento perché solo i nomi delle carte e le raffigurazioni sono così atroci che tendono sì. a repellere. Non puoi far nient'altro che ridere trovandoti in mano certe cose. Ma tu ce l'hai a casa, Simone, o ci hai giocato in qualche ludoteca? Entrambe le cose. Cioè tu ti trovi con i tuoi amici, per esempio stasera potrebbe essere una serata per giocare, no, magari non... Esatto, e ti dirò anche di più, sì. avvicinato a un certo tipo di gioco, perché riprende delle meccaniche sì. che sono molto rodate rispetto ad altri giochi di carte più famosi, delle persone che in realtà non avevano mai preso un paio di carte di questo tipo in mano, quindi ha fatto un lavoro di cross media tra la musica. Tu parentela o di amicizia con Emmanuel Castro, non è che no, stai lo parlando... stimo molto come musicista in va bene senso. Grazie Simone, ed è tutto per questa sera, è veramente tutto. Io ringrazio Isotta Scenna, Riccardo Bucciaro in redazione, Rosa Longobardo dal centralino che è qua davanti insieme a noi a festeggiare, e poi Gianmarco Ferronato in regia, si è dato il cambio con Pietro Lacorte. Da Alessio Maurizio auguri, ci sentiamo l'anno prossimo, cioè tra 2 giorni alle 18 con Si può fare.